Pino, ti hanno chiamato la zanzara, ti sei divertito? Ho mandato a fare in culo anche loro ieri sera, sì, giusto. Ti ho perso, com'è andata Pino? Raccontacelo un po', dai. Ma niente, poi dietro Cruciani, io parlavo con Cruciani, c'era uno e non ho capito chi era che sparava cazzate a manetta. Minchia, l'ho distrutto proprio, ma che cazzo vuoi? Mi diceva, tu vai in giro con la tua chitarra, ma quale chitarra? Io ho lavorato 35 anni fa, coglione, e tu che sei lì a prendere uno stipendio a fare un cazzo a dire stronzate, e magari lì c'è anche tuo figlio e tuo nipote che lavora, coglione. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Oh, non vedo l'ora di sentire Cruciani piangere per questa sconfitta. Non vedo l'ora, che sono le 6:30, sì. Tutto bellissimo, poverino. Che c'è, Crucianino? Le sardine l'hanno buttata in culo al tuo Salvini. Sei triste, cucciolo? Oh, quanto mi dispiace. Le sardine hanno vinto. Le sardine hanno vinto. Le sardine hanno vinto, le sardine hanno vinto, le sardine no! Sono deluso e sto piangendo. Vieni, no. E sto piangendo, e gli altri si divertono, domani sera vediamo! Crociani, le sardine ti sono andate di traverso, mamma mia, come l'hai preso in culo. L'hai preso per il culo per tutto il tempo e loro hanno fatto vincere il PD lo stesso. Beppe, ti è piaciuta l'espressione, la faccia di Santuzzo, Santino, San Cazzo? Ti è piaciuta? Goditela e vai a fare in culo. Crucio, Sgarbi, eccolo, Porro, toc toc, Giordano, lo diciamo qui, fuori dal coro. Godo come un riccio, godo. Cruciani, fascio leghista fallito, eh? Le mangi le sardine stasera con Gio Formaggio, eh? Le mangi insieme a Feltri, Belpietro, eh? Giordano, tutti i giornalisti come voi prezzolati da Salvini, vi andranno di traverso, sardine per tutti stasera. Se potete chiamare i carabinieri, ci sarà qualcuno all'ascolto? Cruciani! Tocca! Perfetto, possiamo cominciare la trasmissione, grazie. Come on. C'è un po' di rabbia, però... Ma quale rabbia? Che cazzo di rabbia mi dica? When I see you dance with another, when I see you dance. D'accordo? I can't bring myself not to bother, when I see you dance with another, when I see you talk to another. Allora ragazzi, amico, che cosa amico mio, cosa vuoi dire, che cosa? Commenti, pagine d'inchiostro, bla bla bla bla bla, mesi e mesi, parlaci di Bibbiano, il capezzone, e i preti caldei, come si chiama quello lì, i preti ortodossi, i meluzzi, i capezzuani, e allora non ho capito, i capezzuani, e allora? i Cruciani. Ma io che c'entro? C'entro un cazzo. Le sardine, sì, ma chi sì. sono? Non parlano italiano, non parlo... E io dicevo, no, ma guarda che portano in piazza, forse cerchiamo di capire questo movimento, vediamo, ma in silenzio. Non rinnego senza, nulla. Senza non rinnego nulla. I grandi giornalisti, tal Francesco Borgonovo, come si dice in inglese, in francese Borgonovo, non mi ricordo mai. Poi in francese, come si dice Borgonovo? Non lo so. Che scrive un libro pregiatissimo, Contro l'onda che sale, perché le sardine e gli altri pesci lesci della sinistra, se non bluff, scrive Borgonovo in un libro che ha dato alle stampe una fatica letteraria enorme, uscita nelle librerie soltanto qualche settimana fa, prima del voto in Emilia Romagna, un'inchiesta pazzesca! E poi che cosa succede? Che succede? Che avanti. Cosa succede? Che succede? Lui scrive un libro, che perché succede? Le sardine... Succede che cosa? Succede che cosa? Che cosa? Il centrodestra ha perso in Emilia Romagna, che succede? Fammi le fare. Sardine sì, hanno ma fatto vincere il centro-sinistra. Ma questo lo dici Bonaccini. Tu, questo lo dici e tu. Questi questo grandi, Metropense e Bibiano. Allora, e Bibiano. Stai calmo, giù un no, attimo ma il che succede a Bibiano? Fermo, che è successo? Fermo, fermo. Il Partito Democratico più del 40%. Fermo, ragazzi. Cioè, ma questo a me non me ne frega nulla. Giù ma il solo microfono. Per dire giù, delle vostre giù. Analisi del cazzo che avete fatto in tutti sì, questi mesi. Sì, sì, l'unico che ha ragione sei tu, giù. Allora, no, ragazzi, nella vita non si può avere tutto. È una specie di discorso, sai com'è il discorso quando uno concede la vittoria all'altro, no? Nelle elezioni americane, vinto, aspetta, no, ma lo faccio io. Stai zitto. Sono le vostre analisi. Stai zitto. Nella vita analisi. Non si può avere tutto. E volevo vedere certamente il fallimento delle sardine, volevo vedere la faccia di Santuzzo questa mattina, ma ripeto, nella vita non si può avere tutto, ho già avuto tantissimo eccetera, e ho perso. Volevo vedere la faccia di Santuzzo, San Minchia come si chiama, cerchietto magico, volevo vederlo distrutto eccetera, non ce l'ho fatta, mai? ho perso, ma non lo si ammetto. Mostra neanche più in televisione, perché lui ha detto che zitto, non serve. La concessione della sconfitta, la concessione, concedo, sai quando concedi la sconfitta? Concedo la sconfitta, ho perso, volevo vedere questa mattina la faccia di Santuzzo, San Minchia, distrutta, segnata, eccetera, non ce l'ho fatta, ho perso, a me non me ne frega niente della Lega, di questo, volevo vedere quella faccia, la faccia del cerchietto magico, la faccia di Santuzzo, di San Minchia, volevo vederla distrutta, non ce l'ho fatta. Dunque, avete trasformato queste che sono delle elezioni regionali che da 70 anni vince la sinistra in una specie di terza guerra mondiale in cui avrebbe vinto l'invasore, in cui se avesse vinto Salvini è come se avesse vinto Ribbentrop, come se avesse vinto Hitler, aspetta, stai zitto, come se avesse vinto Mussolini. Avete trasformato una normale elezione regionale in una sarabanda in cui la vittoria di Salvini era come la vittoria di Mussolini, di Hitler, delle orde naziste, nessuno delle orde razziste, come nessuno. No? Avete trasformato nazista, una normale elezione regionale in un'ordalia e avete vinto. Complimenti, concedo la sconfitta. A me non me ne frega niente di Salvini, né di Forza Italia, eccetera, né del PD. Mi interessava vedere la faccia di San Minchia del cerchietto magico distrutta stamattina. E concedo la sconfitta. Però dico anche un'altra cosa: il PD ha perso alle elezioni politiche. Ha più o meno perso, anche se ha recuperato alle elezioni europee. Ha perso 12 delle ultime 14 elezioni regionali. Però ha vinto in Emilia Romagna e continua a governare l'Italia con i 5 Stelle che si sono praticamente dissolti. Questa è la situazione, amici miei. Questa è la situazione. Dunque, avanti tutta! Allora, voglio farvi sentire una cosa però che è straordinaria. Non è esattamente così. Beh, insomma, più o meno è così. Voglio farvi sentire una cosa che è straordinaria. Governa perché è, come vabbè, tu ma sai, lascia perdere, però governa terza, perché quell'altro, la, che è, la, perché scusami, quell'altro si è suicidato l'estate scorsa. Però aspetta un attimo, voglio farti dire una cosa che non ha nulla a che fare con la politica. Ieri sera c'è stato Napoli-Juventus. A un certo punto, tu sai. Anche che serata quella, anche ieri. Che mamma succede? Mia. Che succede di solito? No, ma forza senti questa Napoli, cosa straordinaria. Ragazzi, io anche ieri, per la prima volta. Ma che te ne frega te del Napoli della Juventus? Mi interessava, non capisci un cazzo. Ma non capisci una sega. Ieri ho tifato Napoli. Ah, perché sei un po' interista adesso. Esatto. Però aspetta un attimo. Napoli, fammi raccontare questa cosa. Fammi raccontare questa cosa. Sai quando all'inizio della partita si mettono le squadre e ci sono i bambini che indossano la maglia. Ognuno o un bambino per ogni giocatore che entra in campo indossano la maglia della squadra avversaria. tutto è organizzato dall'ufficio marketing della squadra che ospita. E dunque organizzato da Napoli, sono ragazzini napoletani, probabilmente anche tifosi del Napoli, anzi sicuramente uno è tifoso del Napoli. Non mi ricordo, stava sotto un giocatore. A un certo punto, inquadrato dalle telecamere, ha preso la maglietta della Juventus con il suo simbolo e l'ha praticamente come schifata questa maglietta che indossava della Juventus. Senti cosa ha detto dopo, ragazzi, solo a Napoli accadono queste cose, solo a Napoli. Ho fatto un gesto che per il Napoli è una cosa eccezionale. Mi sono coperto di oscurettere che la squadra è merda. Solo a Napoli questo bambino. Questo bambino, queste cose le fanno, ma queste cose le fanno come un gesto, come un grande gesto di pacificazione, no? I bambini con la squadra, con la maglietta dell'altra squadra e i giocatori, quelli che scendono in campo, c'è questo contrasto meraviglioso. Si fa sempre, però, questo bambino schifa la maglietta della Juventus e dopo dice: la squadra è merda. Fermi tutti, Luciani, sei una merda! Una merda! Una merda! La Zanzara. Parenzio Bigotto! Zanzarosi, giornata difficile, eh? Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio. Croce Lenzo, devi sapere che i tifosi non... Devi sapere che siamo tornati! Siamo tornati! Triplato dall'acceleratore! Vai Napoli! Da scendere su! Sarò con te! Se tu vuoi parlare, abbiamo un cuore nel cuore! Napoli torna campione! Allora ragazzi, mi potete mettere per favore tutti i messaggi che sono, che ho ricevuto oggi, una parte naturalmente di quelli che ho ricevuto contro il sottoscritto, perché mi fanno godere tantissimo. Ne ho ricevuti molti, cioè molti messaggi questa mattina di godimento di persone che mi insultano, dicono le peggio cose, perché sembra che io abbia, come dire, che io volevo solamente una cosa, la faccia di San Minchia e di Santuzzo. Sembra, certo, sai, la cosa passava per la sconfitta di Bonaccini, non c'è dubbio. Le attività, le iniziative di Salvini, del citofonista, le questioni di Bibbiano. Io giornalisticamente ho condannato Bibbiano. Non si usa un caso di cronaca e non lo si trasforma in un caso politico. Questo è il tema. Comunque, che si è attaccato ai dati, mi segnalano che è stato determinante il voto, secondo l'ANSA, secondo l'istituto, è determinante il voto dei 5 Stelle, no, le sardine non c'entrano un cazzo. Beh no, messaggi anche le sardine sono tornate in piazza. Vallo a dire ai tuoi amati istituti. Già, Cruciani, tu, Porro, Sallusti, Sgarbi, compagnia andante, non avete capito un cazzo, non avete capito un cazzo a sfottere il cerchietto e i suoi amici, e l'avete presa nel culetto. Ciaone. Te la sei presa nel culo, Cruciani. Buongiorno, Crux, com'è svegliarsi con un palo nel culo? Santuzzo, San Minchia, Santuzzo, San Minchia, Santuzzo, San Minchia, te l'ha messo in culo a te, a Salvini, suca, coglione, suca! Avanti tutta, sardine, avanti tutta, l'Emilia Rossa non si tocca! Ti do un consiglio d'amica, oggi, datti malato, falla con Duca e Parenzo. Falla con Duca Parenzo che trasmissione, stacchi a casa, datti malato! Malato! Cruciani tritato dalle sardine. Ah, che bella democrazia! Parenzo all'attacco! Cruciani, fascio leghista! Te l'avevo detto che dell'Emilia Romagna non sapevi un cazzo. Vai a risentire l'audio, la corte. Vai a rimettere la roba di dicembre che ti ho mandato e hai già messo in onda. Te l'avevo detto che non sapevi un cazzo dell'Emilia Romagna. E le sardine, hai visto? Sono più intelligenti di te e di tutta la gente come te. Vai a mangiarle ancora con Gio Formaggio e con quegli altri imbecilli di cui ti circondi. Vai a mangiare le sardine. Fenomeno. Te l'avevo detto, l'Emilia Romagna è diversa. Non a bocca la vostra propaganda di merda, coglionazzo. Top Talk. Vuoi sentire Capezzone? Vuoi Sineira, sentire Capezzone? Sì, lo voglio sentire. Sineira et studio. Mamma mia, ragazzi, quanto mi fate godere con questi messaggi. Quanto mi fate godere con questi messaggi. Perché la gente percepisce quello che hai fatto in questi mesi. Ma io non ho fatto nulla. La propaganda che avete costruito in questi mesi. Ma che cazzo Bibbiano. Dici? Io giornalisticamente mi arrabbio. Ma io non ho mai parlato di Bibbiano. No, tu, io non ho mai parlato politicamente, non mi interessa. Io mi rivolgo a Mario Giordano. Politicamente. Alcuni nostri colleghi giornalisti hanno costruito delle campagne di stampa sposate poi dalla politica. Allora qual è il problema? Tutto legittimo, per carità, tutto legittimo. Le campagne di stampa ci sono sempre state. Tutto legittimo, tutto legittimo. Hanno accusato il Partito Democratico. Ne avete fatte a bizzeffe nella storia la sinistra di campagne di stampa. Io faccio giornalista, non faccio la sinistra. Hanno accusato praticamente il PD di essere un partito che ruba i bambini. Ma veramente il primo è Di Maio. Questo è stato alleato, fatto il primo questo, è Di Maio. Ma io non sono vostro alleato, nessuno ha faccio un altro mestiere. Alleato, hanno alleato. Accusato di fare Capezzone. E a Bibbiano Capezzone. No, Capezzone non è possibile. Sì, Capezzone. Non è possibile. Capezzone. Oggi voglio sentire ancora Capezzone. Sì. Ma questo non è buono per il paese. A maggior ragione adesso, a maggior ragione occorreva, appello al Quirinale, organizzare una chiusura ordinata della legislatura in sei mesi, con bipolarismo, campagna elettorale seria e a giugno un governo serio. Appello al Quirinale. Toc toc! Appello al Quirinale secondo te. Ma Mattarella ascolta l'appello al Quirinale di Capezzone. E lì al Quirinale tranquillo dice... Toc toc! Dice scusa, che Mattarella dice scusa ai suoi collaboratori, chi è? No, c'è un signore qui fuori, si chiama Capezzone. Chi? C'è Capezzone che dice che deve fare un appello al Quirinale. Chi? Chi è che c'è? Capezzone! Chi è questo Capezzone? Ci fa un appello al Quirinale. E chi se ne frega per Dionigi d'Alessandria. Ma dai, ragazzi, siamo seri, appello al Quirinale. Dionigi d'Alessandria. Capezzone fa l'appello al Quirinale. Allora Dionigi, io parlo di fisica. Fammi sentire il popolo che quando il volete popolo, quando volete il popolo conta, in Romagna, quando volete conta. In Emilia e in Romagna, il popolo giusto, mi pare giusto, che ti ha detto assolutamente, ti no, ha mandato un messaggino giusto, molto chiaro. È giusto, assolutamente. In Emilia e Romagna è giusto. E uno deve accettare quello che succede. A me che cazzo me ne frega, volevo solo avete la sconfitta di Santuzzo, Dionigi. Di odio. Ma avete costruito campagne, avete citofonato, avete citofonato alle persone a casa. Avete citofonato alle persone. Alle persone avete citofonato. Con la con i ridolini dei giornalisti che non li avete citofonato alle persone a casa. Ma chi ha citofonato? La cosa è incredibile. Avete nessuno. Voi non lo so, avete citofonato alle persone a casa. Io ogni giorno rompo il cazzo alle persone a casa. Avete citofonato alle Dionigi, qui c'è uno spacciatore. Cioè, no, veramente sono tunisino, ma non sono spacciatore. Avete citofonato. Ecco, bravo. Pronto? Buonasera. Chi è? Ci sono buonasera. Buonasera, ci sono i 49 milioni di euro? No, guardi, scusi, perché ci devono essere? Mica la Lega ruba. Dionigi, ma infatti io ho risposto così. Ma che discorsi Dionigi, sono? Dai, Dionigi. Mamma mia, ragazzi. Dionigi? Sì. Dimmi. Cosa ti hanno fatto le sardine? Vorrei capire. Oh, ma se mi stanno sui coglioni, mi può stare sui coglioni qualcuno politicamente? Mi stanno capito, sui coglioni perché allora, è nulla secondo me e continua allora, a essere nulla. Che vuoi che... La gente ti insulta. Ma chi si lamenta? Figuriamoci, mi diverto come un pazzo se mi insultano. Appunto, perché a te interessa il casino, no? Ma non mi interessa il casino, mi interessa il confronto. Anche, ogni tanto anche... No, il casino, l'hai sempre detto. Ma sì, un po' di casino va bene. Infatti sarebbe stato molto più divertente la vittoria di Salvini solo per questo, la vittoria del centrodestra che succedeva nel 48. Succedeva. Come me, come altri che lavorano, che ma hanno ma che lavori, che tu sarai in pensione lì in panciolla in divano, sul divano a non fare un cazzo, dai Dionigi, dai. Ti sento dalla voce totale. Che tu voti tu, perché totale. Perché tu lavori? Tu lavori adesso? Tu io mi stai... lavoro, ma sì, figuriamoci lavoro. Tu sono in pensione e lavoro, ma tu sono appunto doppio lavoro diretto. Ma tu farai doppio sono lavoro, doppio triplo lavoro. E lavoro ancora perché con la pensione che ho non posso fare una vita da signore come fai tu. Ma e quindi lavoro ma se non ti fa schifo. Ma figuriamoci, non fai, starai sul divano a non fare un cazzo sicuramente. Ma comunque esatto. che vuoi Dionigi? Non ho capito che cosa vuoi. Sei ridicolo. Ma sto dicendo che sei ridicolo. Sì, perché vabbè, perché sono ridicolo? Dimmi. Sono arrivato a casa, ho acceso la radio e ti ho sentito ribaltare la realtà. Ma qual è il ribaltamento della realtà? la campagna elettorale in un casino che solo la gente come te, no, io ho detto un'altra cosa, e di destra è capace, no, a fare, perché io ho come detto, Dionigi, di sinistra, Dionigi, scusami, fanno... io ho detto un'altra cosa, io ho detto semplicemente questo. È chiaro che Salvini ha fatto una campagna elettorale nazionale, su questo non c'è dubbio, non è che volevo mettere non in discussione nazionale, sì, basata su tutto in vacca, ma anche, nazionale, nazionale anche, sicuramente anche, però su questo volevo dire un'altra cosa, ti sto dicendo se che la sinistra ha fatto il suo gioco e ha trasformato una elezione regionale invece in una sorta di battaglia all'ultimo sangue, ma contro tu, l'invasore nazista. Ti sto dicendo che è legittimo, ma perché tu la conosci, allora, invece che vuol dire la conosci? Per lavoro, ma ci sono miliardi di Emilia Romagna, c'è gente di Forlì, di Rimini, mille paesi con mille storie diverse. Che cazzo vuol dire l'Emilia Romagna? È un'entità inesistente l'Emilia Romagna, dai. Purtroppo 66 anni, vorrei averne 20, la conosco da 40 anni e ti garantisco che mediamente è una cosa ben gestita. Cioè tu che mi stai dicendo che siccome in Calabria ha vinto il centrodestra sono tutti ignoranti, che non sanno un cazzo, buzzurri eccetera, invece in Emilia Romagna dove Salvini perde, dove Salvini perde invece sono tutti più ragionevoli, no, più, certo, democratici, è un'altra più cosa, però. Ma dai, io sto dicendo che l'Emilia è una regione ben gestita dove non, sì, c'era, ma da no, c'è nessuno, una cosa in più. Ti vi farà arrabbiare ancora di più, cari ascoltatori, dimmi, e caro il mio sovranista, dimmi. Cruciani, ma io non la sovranista regione Emilia Romagna, sì, è la seconda regione italiana, sì, che ha fatto di più in termini di accoglienza dei migranti. Il segnale orario vi è offerto da Samu Expo, metalmeccanica, plastica e subfornitura, 6-7-8 febbraio, Fiera di Pordenone. Rocchetta, giorno dopo giorno, mi depura da tossine e liquidi in eccesso, facendomi fare tanta plin plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Uno stile di vita corretto e acqua Rocchetta, ecco il segreto della mia linea. Sì, siamo in diretta dalla manifestazione contro il caro auto. La gente chiede risposte. Un attimo, eccolo, è lui! State sereni, ci penso io. S. Gugio, il supereroe del risparmio. Per risparmiare sulla polizza auto, andate su segugio.it. Potete anche vincere un buono carburante da 1000 euro al giorno. Segugio.it, il supereroe del risparmio. Hai detto veramente buono carburante? Da 1000 euro, bello. Che fai in piedi? Sono le 3 di notte. Il jet lag. Dal letto al bagno? Basta scuse. Prostamol con Serenoa Repens, che contribuisce alla normale funzionalità della prostata e delle vie urinarie. Scegli Prostamol, il più venduto in farmacia. E non hai più scuse. Da MediaWorld, finanziamento a tasso zero su tutta la tecnologia che desideri, come Smart TV LG 4K 55 pollici a 379 euro o in 20 rate da 18,95 euro, fino al 2 febbraio. MediaWorld, fatto apposta per me. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Buongiorno. Buongiorno. Mi hanno detto che questa Mini ha i fari B-LED come optional. Le hanno detto male. Ah, e l'Active Guard? Nemmeno. Il Cruise Control? No. Almeno i cerchi in lega. Quelli da 17? Sì. No. I cerchi in lega? L'ha appena chiesto. Niente un optional, perché tutto è di serie. Mini Countryman nuova Baker Street Edition 102 cavalli. Tua a 23.400 euro con eco bonus mini ove applicabile e 5.170 euro di vantaggi inclusi. Scoprila in tutte le concessionarie Mini su mini.it. Dario Romano Estensibile.it. Dal 1981 nel settore dell'imballaggio. Bobine di film estensibile di qualsiasi peso, spessore e colore. Qualità, servizio, prezzo. Dario Romano Estensibile.it. La Zanzara. Grazie di cuore per la cortese attenzione anche oggi nei nostri confronti. Un grazie ai miei sponsor e un grazie alla regia di Alessandro Brunello per la parte tecnica. Our missiles are big, powerful, accurate, lethal and fast. Ascolta, ascolta. Io ho l'abbiato di Donald Trump. Di Iran. Guarda, Donald Trump, guarda. Ha l'abbiato, guarda di mio collo. Guarda, Donald Trump. Mamma mia. Mamma mia, Donald Trump. Mamma mia. Mamma mia, Donald Trump. Sempre casino, Iran, anche America, sempre casino, Donald Trump, oh, boom, boom, boom, boom, boom, non va bene così, oh, boom, boom, boom, boom, boom, oggi all'abbiato brutto brutto brutto. Mamma mia. Buonasera. Eccoci. Cruciani, buongiorno. Adesso non la vuoi vedere più la faccia di Santuzzo? Alla faccia tua. Cruciani, cos'è che dicevi settimana scorsa? Spero che vinca la Lega solo per vedere la faccia di Santuzzo lunedì mattina. E io godo, godo, perché vorrei vedere la tua di faccia questa mattina appena sveglio. Godo, leghista infame, maledetto! Sai quanto ha preso Adinolfi col Popolo della Famiglia Bibbiano? Sai quanti voti ha preso, Davide? Ma lo sai quanti voti ha preso? No, ma sai Roma, quanti credo. Voti ha Bibbiano? No, non lo so. Due voti. Beh, tanto. Due voti. Due. Però è tanto. Nel paese di Bibbiano. Due voti. Tanto. Due voti, amico di noi. Tanto, non è poco, è tanto. Due voti, cazzo. Ma è tanto due. Ma è non tanto, è tanto due è voti. Tanto. Ma due voti significa che nemmeno è una famiglia tanto. Intera. No, nemmeno una famiglia con un figlio. Hanno litigato. Anzi, il Popolo della Famiglia ha fatto separare una famiglia, probabilmente. Sono aumentati i divorzi. Lì le due persone lì si sono separate. Due persone a Bibbiano. Sì, sicuramente. Due. No, ma io non ci potevo. Ma no, avete fatto voi le inchieste su Bibbiano attribuendo una responsabilità politica alla sinistra. A me non me ne frega nulla della sinistra nel merito, perché se uno commette un reato, commette un reato. Ma avete raccontato delle balle. Ma chi? Delle balle. Ma chi? Con le magliette. Comunque, a proposito, parlaci di Bibbiano. A proposito, quella è la Borgonzoni al Senato. Però scusami, voglio dirti una cosa. Scusami, questa è l'unica trasmissione. Non ho sentito un audio di Mario Giordano. Non si è sentito, scusami. Mario Giordano. Vedremo come domani. Mai? Vedremo domani. Toc! Come mai? Vedremo c'è un campanello, domani. C'è un citofono, vuoi citofonare a Cologno? Sì, ma scusa, cosa è successo in concreto? Dammi citofono. Tu stai dicendo che c'è la distruzione di Salvini. Niente. La distruzione di Salvini. Quella ha preso il 30% della Lega. Scusa, facciamo un racconto Dai, politico asettico. Ma questo lo fai tu. Fai un racconto tu politico asettico. Sei un militante sì, politico, sei. Fai Dai. Un racconto politico, non diffamarmi. Fai un racconto politico asettico. Salvini, la Lega, ha fatto una campagna dicendo liberiamo l'Emilia Romagna. Governo a casa. Certo, non c'è dubbio. È andato un giorno sì e l'altro pure lì? Assolutamente. Sì, infatti ha perso. Chi è in che Emilia ha politicizzato Romagna? L'elezione dell'Emilia Romagna? Ma certo, beh, Salvini, non c'è dubbio. Salvini. Dunque, sto dicendo, chi Gambinto? Ha dato una mano nel grande chi? Racconto? Giordano, che Mario, so, Mario ma Giordano. So, ma non lo dico. Ma scusami. Invitava al cinema. Io vorrei che questo, perché è un paese senza memoria. Faceva le interviste dando il popcorn e invitando al cinema. Finto l'ottima cinema, Meloni, finto cinema, in uno studio televisivo. Sì. L'ottima Meloni e Salvini. E Matteo Salvini. Un giorno sì e l'altro pure. Ottima, senza ironia. Un giorno veramente. Sì e l'altro pure. E stasera grandi ospiti a Fuori dal Coro. Sarà con noi prima Meloni, tu dici, poi Salvini. Lo sconfitto prima è anche Meloni, Mario poi Giordano. Salvini. Lo prima Meloni, poi Salvini. Prima Meloni, poi Salvini. Prima Meloni e poi Salvini. Interviste top avremo top. Giorgia Meloni e poi avremo Matteo Salvini sì. Tutti e due in questo studio sì, ma, sì. E poi l'altro prima uno poi l'altro prima uno poi l'altro la prima dopo. Uno poi l'altro la prima dopo. Uno poi l'altro prima uno poi l'altro ragazzi comunque ragazzi a me sconvolge questa cosa i due Avete. Voti i due voti mi sconvolgono. Due voti in un paese che ha anche 10.000 abitanti, non so quanti votanti, è incredibile prendere due è voti. Tanto, è due. Tanto, è tanto. No, è tanto. Ma non è tanto, una follia. È tanto dai, due, due voti. No, è tanto, Marione, due. Stai sbagliando qualcosa. Marione, stai qualcosa. Sbagliando qualcosa. Qualcosa. Paola qualcosa. Da Genova, dai, vabbè, Paola qualcosa, da Genova. Qualcosa, sei Buonasera. Indulgente, qualcosa. Dimmi Paola, dimmi. Buonasera, ciao, tanto Cruciani, tirati su che sei un grande. Sì, ma io non mi devo tirare su. No, scusami, allora, voglio specificare questa cosa, Paola, io non mi devo tirare su, perché a me non me ne frega un cazzo. No, va bene, cioè io volevo solamente una cosa, volevo, lo desideravo molto, devo dire la verità. Ieri sera ero deluso per questo. Ho visto la partita, ho visto le partite, poi mi sono accomodato tranquillamente, ho visto gli exit poll, poi ho visto visto i primi risultati, mi sono accomodato con la ferma intenzione, con la fermissima intenzione di vedere quella faccia segnata, distrutta, la faccia di Santuzzo. Invece me la sono presa in quel posto, ma io lo riconosco, ho perso, però non volevo, a me poi che vinca uno o l'altro non me ne frega niente, volevo le sardine distrutte. Pare che si autodistruggano da sole, pare che dicono che non fanno più attività, si vedranno, si vedranno ogni tanto sti casi, Scampia e faranno un evento stelle che magari poi si fanno tutto. Comunque carino, oggi poi apprendo che da un famoso istituto di sondaggi dicono la vittoria di Bonaccini determinante sono stati i voti degli ex 5 Stelle, punto, per cui anche 5 Stelle lì bisogna ridimensionare Santuzzo e il fatto che sono andati a votare in tanti rispetto alla volta precedente. Tu sei troppo abituato ai dibattiti senza il pubblico ormai. Paola da Genova, io voglio sentire il popolo, la gente, sì, però bisogna le persone di cose che chiamano, un minimo informate, un minimo su una cosa. Se il PD si togliesse quella accezione di democratico che non lo è, no? Vabbè, che c'entra adesso perché, questo, Paolo? No, dai, ognuno si chiama come si chiama, dai. Sì, io sono stanca di sentirmi dire che voto con la pancia, mi viene voglia di dirgli con cosa votano loro. Vabbè, allora che cosa vuoi dire? Cosa vuoi dire, Paola? Non siete mai insultati, io rispetto il voto degli altri, vorrei che fosse rispettato. Vabbè, dunque? Ma quello ci mancherebbe altro, signora, certo. Poi io vengo da un paese, abito in un paese, no, via di Genova, che era il fiore all'occhiello del commercio di Genova. Vabbè, ma Paola, però andiamo al sodo, qui non stiamo facendo la storia di Genova, la storia delle tue elezioni, però, eccetera. Però è stato distrutto da... Vabbè, ma hai rotto i coglioni, Franco da Milano, vai, forza, andiamo avanti. Mi ha rotto il cazzo. Pronto. Dimmi, Franco. Buonasera. Dimmi. Senta, allora, vorrei ricordare all'egregio signor Cruciani. Sì, dimmi. Nonché giornalista, sì. Che è la... No, signore, giornalista, non lo aggiungere, vabbè, non diciamo, me ne frega sì, infatti, hai ragione, bravo, non sei giornalista. No, ragione. No, ma sono un cazzo io, dai Franco, no, però no, basta appunto. Che vai avanti e non mi rompi i coglioni, sì, dai. Ecco, allora, volevo dire che la Emilia Romagna potrebbe essere presa come benchmark sì, italiano, sì. Perché a cosa? Livello per... produzione, per... Ma questo l'abbiamo sentito per 2 mesi, dimmi che qual è il punto? Il punto è questo, che questi hanno le palle. Ah, perché siccome palle. Sardini allora, è stato sconfitto in Emilia Romagna hanno le palle. Allora, le sardine potevano nascere in Calabria, coglione. E perché c'entra? Potevano nascere in Calabria. Se Santuzzo avesse avuto i coglioni andava a fare campagna elettorale anche in Calabria. Politico, industriale, la Ferrari poteva nascere in Calabria. Ma perché devi essere razzista? Perché devi essere razzista con i calabresi? Non ho capito. E mi dispiace di Parenzo che abita... condivide l'ufficio con te. Ma no, veramente sto a Roma. Io sto a Roma, lui sta a Milano. Io d'urto del sole 24 ore. Ciao. Sì, la cosa, guarda, non mi scandalizza per niente. Alberto dalla provincia di Napoli. Mi hai fatto quasi un complimento. Dimmi Alberto. Niente, io sto con te. Stavo solo dicendo che stamattina ho visto eccitatissimo David. Sì, eccitatissimo. Tranquillissimo. In una maniera incredibile. Sì, eccitatissimo. Teniamo un calzino democristiano addosso, guarda. Sì, guarda, era arrabbiatissimo. C'è il pisello durissimo in queste ore, Davide. No, eccitatissimo. Francamente, non sono dettagli. Si è attaccato con Borgonovo. Sì, facciamo sentire tutto. Poi facciamo sentire tutto. Ricostruiremo tutto. Poteva pure dire semplicemente la Bonaccini ha rivinto in una Emilia rossa. È 70 anni che vince il PD. Gli eredi del Partito Comunista. Il PD ha perso perché prima governava, adesso vota al centrodestra e faceva la sua. Allora ragazzi, diciamo la verità, se si fosse votato oggi per le elezioni nazionali con qualsiasi sistema elettorale, chi avrebbe vinto? Diciamola tutta la realtà. La realtà è questa, poi mettetela come volete. Elettorale. A me non me ne frega nulla. Sì, certo, perché adesso vi volete fare una legge elettorale per fare in sarebbe modo che i mostri Salvini e Meloni non vincano. Invece si è dimostrato che si possono battere. Invece voi avete paura di andare Romagna, a votare a livello la legge nazionale. Elettorale Emilia Romagna è quella che voleva fare la centro-sinistra. Patrizia dalla provincia la legge di Milano, elettorale che c'è Patrizia, in Emilia Romagna è quella che volevano fare a livello nazionale. Non sai Patrizia, niente, come al solito. Sì, Patrizia, pronto? Provincia di Milano. Ciao. Volevo parlare con quel coglione di Parenzo. Eccolo qua, dimmi. Piacere, ecco. Parenzo, buonasera. Lei si chiama Coglione, buonasera. Nome di battesimo qual è? Sì, Coglione? Visto che è un discorso serio. No, scusi, il suo nome qual è? Lei mi ha detto Cogliona, ma Coglione. All'attacco, Patrizia, vai. Quindi si chiama Patrizia Coglione lei? È un discorso serio. serio, con te non si può fare, sì, visto la testa di cazzo che hai. Ma non capito, lei si chiama Patrizia Coglione o Patrizia Testa di Cazzo? Non riesco a capire, signora, scusi. All'attacco! No, chiariamo! No, chiariamo! Chiariamo come si chiama, però. Fermi che torno. Meglio un pomodoro che rispetta i diritti dei lavoratori o uno che rispetta solo il tuo portafogli? Basta dilemmi, c'è la convenienza doppia COP. Passata di pomodoro origine COP, confezione da 700 grammi, a soli 45 centesimi. Conviene a te e alla legalità, perché prodotta rispettando i diritti dei lavoratori su tutta la filiera. La COP sei tu. In cima a una montagna innevata o in attesa della prossima onda? Ovunque ti portino le tue passioni, seguile a bordo di BMW X3. Il SUV disponibile in versione benzina, diesel o plug-in hybrid è pronto a farti vivere le tue passioni con un bonus di 5.000 euro se permuti la tua auto. Offerta valida fino al 15 febbraio su vetture disponibili a stock. Dettagli su bmw.it e in tutte le concessionarie BMW aderenti. Sabato 8 e domenica 9. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com. Nel 2002 mi sono diplomato. Nel 2006 ho aperto un bar. Nel 2010 mi sono sposato. Nel 2011 è nata mia figlia. Nel 2015 sono stato arrestato per omicidio. Nel 2016 sono stato condannato a 30 anni. Nel 2018 sono stato assolto con formula piena. Troppo spesso consideriamo mostro un innocente. Il Riformista è l'unico giornale che combatte ogni giorno contro manette facili e giustizialismo. Il Riformista, il quotidiano uguale a nessuno. La Zanzara. E poi avremo un sacco di ospiti. Avremo Vittorio Sgarbi, Vittorio Feltri. Tu sei un istigatore. Sei un criminale della radio. Dovresti andare a lavorare a Cadurso. Lì sai bene, Cadurso. Non mollare mai, tigre, combatti contro sti fascisti. David Parenzo, alias il Tritafasci. Grande cazzo, grandissimo. Mauro da Messina, suca! Torniamo a Patrizia da Milano. Patrizia da Milano, cosa volevi dire al signor qua, Parenzo? Dimmi, eccomi Patrizia. Qua. Dimmi. Quel testa di cazzo di Parenzo. Ancora. Mi ha mandato piacere Parenzo, come si chiama WhatsApp, lei? Patrizia, mi WhatsApp chiamo. Mi pare difficile. No, ma si chiama Patrizia, ecco. Testa di cazzo, però non ho capito no, il suo testa nome. Testa di cazzo sei tu. No, io mi chiamo David Zecca. Parenzo. Sei una zecca. Ma cosa lei si chiama Patrizia Zecca, ma quanti nomi c'ha questa? Cruciani si può, che identità? Avete Patrizia va a cagare. Solo con l'Emilia. Ma come si chiama? Io non ho vinto niente, rossa. Io voto a Roma. Come si chiama e lei? Non ho capito. Finalmente a votare democraticamente. Patrizia, come si chiama lei? Scusi, capito? Patrizia. E a quello che ha augurato la morte agli elettori del centrodestra, gli darei 10 anni di servizi. Ma chi ha pulire i cesti? Ma chi ha augurato la morte? Signora, lei non sta bene. Lei non sta bene, signora. Signora, dici tu. Lei signora, non sta bene. Signora. Voi avete quegli elettori, ma quegli scusi, elettori chi? Che fomentano ma voi chi? L'odio. Ma quello, chi parla? Quello che ha augurato il cancro lì, un comizio prima coglione. Della campagna elettorale. Ma ci mancherebbe. Un coglione. Certo. Sì. Non si augura il cancro cosa a nessuno. Sono? Le sardine che cosa sono? Ma che, no, adesso che non è non che tutte le sardine hanno augurato la morte al cancro a nessuno, dai. Giuseppe. Volevo anch'io vedere la faccia di quel santuccio lì. Lo so. E invece sotto, ma lo vedremo. Bello il linguaggio, lei perché vota signora con questo linguaggio? Mi faccia capire. Io? Sì. Indovina un po' cosa no, voto. No, io chiedo, non ho pregiudizi. No, ma che ne sa lei cosa voto io? Ah, scusi, dal linguaggio non avevo capito, chiedo scusi. Sì, no, certo, dal linguaggio non avevo capito. No, dal linguaggio non avevo capito, scusi. Ma invece il linguaggio che usate voi è ma molto voi chi? Meglio. Non ho capito, signora, come si chiama? Sinistra. Ma quale ma sinistra? A sentire i discorsi che fate. Beh, ogni tanto andateli qualcuno anche lì qualcuno, e no? E Bibbiano. Senta, facciamo così. Vergognati io di Bibbiano, che non sono mai stato Bibbiano in vita mia, peraltro. Scusi, signora, volevo capire: domani ci guardiamo Mario Giordano? Ce lo spariamo domani? O Mario Giordanone? Ce lo spariamo Mario domani? Mario Giordano è un giornalista Giordano non è come te. Può ripeterlo tu per favore? Tu sei uno straccivendolo. E invece Giordano? Sì, Giordano è un grande giornalista. Grazie signora, non ho altro da aggiungere. Non ho altro da aggiungere. Lo guardiamo certo. Domani, ci mettiamo in poltrona domani, accendiamo e vediamo. Perché sì, magari da Giordano ha vinto il centrodestra. Perché magari scopriamo un'altra cosa. Io non ho pregiudizi. Domani. Ma è così. È l'unica regione rossa che rimarrà. Domani ci colleghiamo alle 20. Alle 21, 25. È vero una cosa che dice Patrizia, caro David. È vero che dice una cosa. Ma nostra, di chi a me? Che io, scusi signora. Però è anche vero una cosa, questa signora dice che io voglio state un po' di verità. No, state insultando per la vittoria in una regione, mentre in tutte le altre regioni io ho preso in giro la corazzata dei media che in tutti questi mesi hanno fatto da house organ, come mi insegna Patrizia. Sa cosa vuol dire house organ? Succede per tutti, non ti preoccupare. Succede dappertutto. Ciao. Comunque la cosa più incredibile di oggi è che c'è un presidente del Consiglio, Conte, che dice che bisogna fare fronte, lui che è stato al governo con Salvini, che ha appoggiato tutti i provvedimenti di Salvini, e che dice che bisogna fare un fronte comune contro le destre. Cioè tu ti rendi conto che la politica italiana non è più credibile, non c'è nessuno di credibile. Una cosa sono gli amministratori locali, una cosa è la politica, c'è gente che ha la faccia come il culo, diciamo la verità, senza fare nomi e cognomi. Ma mai? Scusa, per esempio uno che si chiama Giuseppe e uno che fa di cognome Conte, c'è gente senza fare nomi e cognomi che ha la faccia come il culo. Una persona che ha governato con Salvini e che adesso dice che bisogna fare fronte comune contro le destre, lui, diciamo, si dovrebbe vergognare. Di ma lascia perdere, può avere tutte le colpe del mondo, però almeno è sempre lo stesso, diciamo, no? Poi lo puoi considerare una merda, lo puoi considerare un Hitler, un Mussolini, un dittatore, un pericolo per la Repubblica e un pericolo per la democrazia, va benissimo, sta bene tutto. Ma un signore che si è seduto accanto a lui al Consiglio dei Ministri, che ha approvato tutto, che è stato lì a fare gomito a gomito, e oggi mi viene a dire, ripeto, senza fare nomi e cognomi, Giuseppe di nome, Conte di cognome, ma non voglio fare né nomi né cognomi. Il presidente del Consiglio, uno che ha la faccia come il culo. Eccola, sentiamolo. Visto che si è manifestata un'altra modalità di fare politica, spettacolo, perché invece prima durante com'è? Questa campagna, cioè il tentativo è di andare in giro a citofonare, forse c'era anche chi voleva citofonare qui a Palazzo Chigi. Ecco, io ritengo che è bene che queste modalità non abbiano più seguito. Però trovo veramente indegno andare in giro con le troupe che, quindi con anche il clamore dei media che ci seguono, andare in giro a citofonare additando singoli privati cittadini, a torto o a ragione, non importa, come colpevoli, responsabili di gravi comportamenti delittuosi. Questo veramente è inaccettabile. Prima era la stessa cosa, era uguale, tu eri fianco a fianco, fianco a fianco, dai su, Luciana da Vicenza, ma vergognatevi, dai, chi c'è, chi è? Ah, Mauro da Messina, Mauro, hai sentito quell'ascoltatore che ti diceva, Mauro da Messina, sì, certo. Ma, non è... se lui la sta prendendo nel culo da quando è cominciata la politica, ecco le merde che c'è stanno riuscendo. Hanno confermato una regione di merda che era da 70 anni rossa e stanno festeggiando, questo raffinato politologo? E allora ne sta di cazzo, ti dico, riace. Chi è questo raffinato? Il simbolo dell'accoglienza era Riace. Ma chi è questo esaltato, raffinato politologo? Allora, gli devi dire al capitano Fracassa e al commissario Montalbano. Chi è? Al modo nazionale. Forza, capitano Fracassa. Però non ha torto, Mauro, nella sua, come dire, nella sua prosopopea. Ma io non sono in scena. Fracassa, voto nazionale, vi sentite sicuri? Giusto, giusto, non è l'unica vittoria. Non è sbagliata. 14 cazzi in culo avete preso. Ora nell'unica vittoria dei bosciani sono risaliti. Quello, Bibbiano. Ma che cazzo vuoi con Bibbiano? Ve l'hanno messa nel culo in 14 provincie. Bibbiano. Scusi, lei in che anno? Sì, no, tutto chiaro. Calmiamoci solo un secondo. Scusi. Sì. Scusi un secondo. In modo preliminare, una domanda preliminare. Un momento. Lei è nato prima del 22 maggio del 1978, vero? Tu sei una testa di cazzo e lei è nato prima del 22 maggio del 1978, la 194, quando c'era la legge sull'aborto. Lei è nato prima del 1978. Lei è nato prima del 1978. Calmiamoci un secondo. Ricalmiamoci un secondo. Lei è nato. La domanda è semplice. Lei è nato prima del 1978. Mauro, calmati, questo è peggio di Mauro da Manto. Ma calmati, calmati. Lei è nato prima del 78. Questo me lo conferma, però, vero? È nato prima del 1978. Lei è nato prima, sì o no? Però, Mauro. È nato prima, sì o no? Del 78. È per capire. Lei è nato. Sì, vabbè, calma. Però Mauro, calma un attimo. Questo è sardino, lo sappiamo. La domanda precisa di Parenzo è questa. Sei nato prima o dopo il 1900? Senza urlare. Sì, prima o dopo il 78? Perché spiega molte cose. Sei nato prima o dopo il 78? Questo vuole sapere. Non ho altre domande. Perché evidentemente la famiglia, per non commettere un reato, evidentemente la madre avrebbe voluto abortire, non c'era ancora la 194, ed è nato questo signore che si chiama Mauro da Messina. E infatti gli effetti si vedono: chiama nelle radio, molesta le televisioni, urla. È nato prima del 1978. Andate alle nazionali, tiratele. Mauro, io non ho capito bene. Parenzo sostiene che sei nato prima del 78. Ma questo è nato di fatto. Il senso è questo. Cioè, esatto. Tua madre, sì, anche è se è nato prima della legge sull'aborto, non poteva abortire. Non poteva. Certo. Non poteva. E lui come è nato? Non è nato da un aborto. Lui è nato da due. Ma questo Mauro da Messina, caro, questa è una vecchia cosa. Le posso chiedere per chi ha votato lei alle ultime elezioni, per avere un quadro dell'elettore? Per la destra. Grazie. Non ho altre domande. Era per avere un quadro dell'elettore. Grazie. Non ho altre domande. Grazie. Non ho altre domande. Era per capire l'elettore. Era per capire l'elettore. Non l'avevo capito. Era per capire l'elettore. C'è un ascoltatore che abbiamo capito. C'è un ascoltatore che mi ha mandato un messaggio dicendo: Suca Mauro da Messina. Molti Suca, hanno. Perché non viene mai Suca Iddo? Suca minchia. Ciao. Suca minchia Iddo. Ora stanno uscendo tutti. Erano nelle fogne. Ma dove escono? Quali sono i fascisti? L'ira di Dio stanno facendo. Ciao Mauro. Stanno facendo l'ira di Dio. Ma cosa gli viene il fegato? Gli si spacca il fegato a questo qua. In diretta il direttore di Libero Vittorio Feltri, eccoci qui. Siamo un crescendo rossiniano. Buonasera, caro direttore. Parenzo voleva che fosse, come dire, risolto un giallo, sì, un caso. Un grande giallo. Prima di parlare delle elezioni, ieri il direttore, come al solito, è andato a casa alle 8, alle 7 e no, mezza. No, per non cena, è quello, non è quello. Come non al è solito. No, no, il giallo del cesso. No, del titolo di Libero volevo sapere. No, ma lascia perdere. Il giallo, sì. Il giallo del cesso. Volevi che fosse risolto questo giallo. Qual è il giallo del cesso? Ma perché si fregano i cessi pure a Libero? Perché si fregano pure i pezzi del cesso a Libero? Ma io non so che cosa ti riferisci. No, si riferisce a fatto una notizia che ci hai dato tu in diretta. Ma che casino, vi parlate addosso un altro, io non capisco. No, scusami Vittorio, David voleva fare chiarezza su un episodio che tu hai raccontato la settimana scorsa. Sì, quando sì. Hai detto che hai trovato, non so in quale contesto, in quale televisione, che hanno rubato dei pezzi di un cesso nella redazione di Libero. Sì, è successo, è accaduto un paio d'anni fa, non si sa per quale, diciamo, strano e strano motivo, a un certo punto dai nostri bagni sono mancati i sedili del water. Le tavolette. No, si chiamano sedili. Sedili, va bene. Io li chiamo sedili perché si chiamano sedili. Boh, no? Non so io come si chiamano esattamente. Perché non sa un cazzo, quindi non sai ecco, tu, ecco, tu però invece sai tutto dei cessi, vedo. Perché quando uno ti chiede su altre materie, io non so niente. Quando uno ti chiede dettagli sui cessi, dice no, io però so tutto. Benissimo. Io so tutto quello che non sai tu, perché tu sei un pirla. Parliamo di cessi, che è un tema interessante. Ma che è successo? Parliamo di cessi. Perché hai raccontato questo episodio, Vittorio? L'ho raccontato perché si stava parlando, diciamo, che... Di un fatto abbastanza, diciamo, molto, molto diffuso erroneamente, cioè che tutti i problemi di delinquenza, sì, di cattivo sì, comportamento sia del sud. E io ho detto che anche qui succedono le cose strane, per esempio persino a Libero, che è un giornale dove non esistono problemi di alcun tipo, ma a un certo punto sono spariti se di cioè, ma non si è capito persino no, ma non proprio si è Libero no persino perché? No proprio a Libero ma non succede a Repubblica dove? Al Corriere io se rubano il sedile del cesso del mio inquilino al piano superiore però chissà come mai li rubano a Libero chissà come mai a Libero ma rubano mai, ma se l'ho detto io che cazzo dici come cosa, mai ma che una ne bella ne inchiesta io una bella non ho mai inchiesta, rubato niente ma non avete scoperto chi è stato a rubare queste tavolette del cesso? No, non l'abbiamo scoperto, però è successa un'altra cosa anche più comica, cioè c'è stato qualcuno che rubava le merendine dai distributori automatici. No, ma ragazzi, è un ambiente posso dire, è un ambiente incredibile quello, è un ambiente incredibile. Ma solo tu per completare la quadra. Si fottono i pezzi del gesso, si fottono le merendine, ma è un ambiente incredibile, ma fammelo dire. Ma io, scusa. L'ho denunciato lui. Ambiente incredibile. Però scusami Vittorio, no, si fottono pure la carta igienica, si fottono pure la carta igienica secondo me. Ma è molto probabile che sia anche quello. E anche scusa, lo strapettino con cui si pulisce il bagno. Io quel coglione di Salento, vorrei ti fottono il cesso e il coglione sul fammi sentire. Io qua a Libero ho un cesso tutto mio con la chiave perché nessuno mi ruba niente. Questo devo dire che è stupendo. Cioè praticamente tutto. Cioè lui non va mai al giornale, quelle poche ore che va c'ha pure il cesso con la chiave, perché altrimenti gli fregano qualunque cosa. No, una cosa pazzesca. Tu sei veramente una enorme testa di cazzo. È incredibile, incredibile. Lui tutto il giorno sta lì. Ma se alle 7 di sera vai a casa a mangiare, dai. No, perché tu non mangi alla sera, mangi ma no, alle 7 dimmi Vittorio, ma io no alle 7 di sera. Scusami, comunque dai. Se questo stronzo continua a rompermi coglione, è inutile che mi. No, hai ragione. Per farmi dire delle cose. No, era curiosa. Era niente bene l'operazione. No, era curiosa. Permetterai, direttore, che è curioso che fottono tutto lì a Libero, le merendine, i pezzi del cesso. Che è curioso, no? Comunque, per carità, andiamo avanti. Ma tu l'ho denunciato io, l'ho detto io che. Cazzo, no, tra l'altro la cosa straordinaria è questa, che tu te ne fotti perché hai un cesso tuo e certo non mangi le merendine, su questo non c'è dubbio. Senti, io però ti volevo fare una domanda per prendere un po' la larga questa questione delle elezioni, ormai hanno parlato tutti delle elezioni eccetera, però allora tu preferiresti, cioè uscire con una bella figa oppure vincere le elezioni, vincere in Emilia Romagna? No, perché io sono convinto che a te non te ne frega un cazzo. Cosa che interessa di dunque, niente. Dunque, meglio uscire con una bella figa che, che la vittoria del centrodestra in Emilia Romagna, diciamo la verità. Uscire e anche entrare. Uscire e anche entrare dentro una bella figa, su questo di entrare non c'è dubbio. Però stessa domanda e immagino stessa risposta. L'Atalanta, no, questo è un po' diverso. Atalanta che vince 7-0 a Torino oppure un orgasmo? Beh, lì è difficile la storia, eh? Lì la scelta non è facile. Ma siete fissati? Guarda, adesso sull'orgasmo devo fare una piccola chiosa. Sì. In sostanza, cosa succede? Che la fatica è tanta, il piacere dura poco e la posizione è ridicola. Un classico. Mentre la partita dura 90 minuti e se fai 7 gol al Torino hai 7 orgasmi. Beh sì, questo è vero, devo dire. Non c'è paragone, dici, l'orgasmo è faticoso, è la posizione scomodissima, eccetera, eccetera. Il piacere dura poco. 7-0 sono 7 orgasmi contro il Torino. Non c'è dubbio, non c'è dubbio, non c'è dubbio. Senti, i cinesi, una cosa che mi ha incuriosito. Cioè, oggi ho pensato, in questi giorni ho pensato, il direttore Feltri avrà mai mangiato cinese? Dunque, si sarà mai intimorito di questo virus l'altra cinese? Sera che io sono a mangiare cinese. Che potrebbe arrivare qui, sai? Nessuno. No, io non amo il cibo cinese, quindi non frequento ristoranti cinesi, sì. Però ho molta simpatia per i cinesi, sì. Cui, anzi segnalo che non c'è mai nessun episodio di razzismo nei loro confronti, perché lavorano più di noi, sì. Quindi questo significa che l'Italia proprio non è un paese razzista come i comunistelli, come Parenzo sostengono, sì. Sì. Quindi io non... Però anche questa influenza, questo virus, a me non spaventa. Ma certo, tanto no, anch'io io l'altro giorno sono andato a mangiare diciamo la verità, cinese, un po' di cinesi se muoiono, noi che qui da qui, diciamo, dal nord, da Milano, nulla, ma cosa nulla, dici? Non ce ne fotte. A me sinceramente che muoiono una decina a frotte dei cinesi, pazienza. Ma come fate a dire una stupidaggine? Ma cosa dite? Ma siete dei pazzi. Ma che muoiono delle persone, che in Cina muoiono la gente, è normale che muoiono. Ma è una tragedia in mano. Ma sì, ma succedono sempre tante cose in Cina, cioè non è che importa. Che vuol dire tante cose? È una cosa pazzesca. Vabbè, ma ci vuole costringere a essere tristi per la morte dei cinesi, Vittorio. Cioè, no, guarda, ti dico la verità, anche se morisse Parenzo, a me tutto sommato non me ne fotterebbe niente. No, adesso questo io faccio, diciamo, amabilmente, cioè, diciamo, uno ricordo, si addolora solo per la morte, si addolora per la morte delle persone più prosse, di cui si intatto, invece sono addolorato. Ecco, ma questo lo posso capire. Se ci fosse l'uniche cose, gli unici interessi del nostro direttore sono avere una chiave per chiudere il suo bagno, perché nel resto di Libero si fottono tutto, e il suo gatto, e arrivare a casa la sera alle 7:30 quando il giornale è ancora aperto, scemo, e cenare. Ma chiamalo questo scemo. È il direttore di Libero. Ma chiamalo scemo. Però il coglione Parenzo, sì, che avanti. Mi sta parlando al telefono, non ha neanche la capacità di compulsare l'orologio, e non sa scoprire che, essendo praticamente siamo vicinissimi alle ore 20, e io sono ancora qui al giornale. Esatto. Una cosa pazzesca. Tra un'ora. Beh, però i giornali chiudono alle 11, in genere lui va via alle 9. È uno incredibile. Pazzesco. Nel dire stronzate. Lui è veramente bravo. Lui inventa delle cantate. E qual è il grande titolo di domani? Qual è la grande apertura di domani? Questo non te lo dico, perché devi spendere un euro e mezzo per comprarlo, coglione. Però scusami, Vittorio, c'è un'altra cosa fondamentale. Adesso un po' di godimento, va bene che non ce ne frega un cazzo di niente, e ci sono altre cose fondamentali, tra cui la figa, diciamo. Ah no, aspetta un attimo, mi arriva una notizia da un insider di Libero. Dicono che Feltri non usa mai il suo bagno, ma sempre gli altri, e lo lascia sporco. Questo mi segnalano. Questa è una meschineria che sono potresti dire, che mi è arrivato bagno. Cioè, una fonte. Se è arrivato. Tu devi verificare le notizie, testa di cazzo. Disse il direttore di Libero. Tu le devi verificare. Disse il direttore di Libero. Tu le devi verificare le notizie. Disse il direttore di Libero. Disse il direttore di Libero. Io voglio capire. Noto verificatore di notizie. Zitto un attimo. Non ho fatto altro nella vita. Un godimento nella vita. Che io sono diventato ricco e tu sei uno straccione. Ma che ne sai tu? Scusa. Ritto scrivendo patata bollente, gli immigrati portano le malattie, così perché sei diventato ricco. Le patate non sono bollenti. Quando l'ha scritto a Italia Oggi che Fioravanti è una patata bollente, questo non ti ha scandalizzato. Scusami. Siccome io abbiamo fatto il titolo sulla Raggi, e siccome tu sei un sessista di merda, sei stupido. Scusami, sei stupido. Direttore, però un piccolo godimento, un piccolo moto di godimento, quasi, non dico di orgasmo, per questa autodistruzione dei 5 Stelle, ce l'hai o non ce l'hai? Un po'. No, un po'. Ma quello mi ha veramente, veramente allietato la giornata, ma devo dire che purtroppo me l'aspettavo già, quindi la sorpresa è stata così forte come io diciamo avrei gradito. Però la cosa che mi diverte di più è che noi avremo da domani un governo sostenuto da un partito morto. Sì, questo è pazzesco. È bellissimo, no? È stupendo, solo stupendo. Qui solo qui può succedere che c'è un partito morto, inesistente, dissolto, che morto. Tiene in piedi il governo. Dei morti che camminano in ma Parlamento. Morti per le elezioni dell'Emilia Romagna. Sì, cioè, no, fatemi in capire. In generale. Ah, quindi avevano una valenza nazionale queste elezioni. Ma no, ma lascia perdere adesso questa analisi. Siete un po' in contraddizione. Adesso ce lo deve dire. No, ma siete in contraddizione, perché da una parte dite che sono soltanto elezioni in Emilia Romagna. Chi l'ha detto? Dall'altra dite che hanno una valenza nazionale. Ma chi tu? No, non ho adesso, non ha, e allora perché è un partito morto? Che è un partito morto che non riesce a beccare più un voto da qualsiasi parte si voti, esatto. Continui a sostenere il governo, è abbastanza comico. No, no, ma lui non trova comico. Ma in Parlamento sono la seconda forza politica. Appunto, lo anzi, scusami, la prima forza politica. La prima e te lo ricordo perché secondo me non te lo secondo me te lo dimentichi. Sono la prima forza politica in Parlamento. Ma questo lo abbiamo capito che sei un pila inutile che continui a sopportare. La prima forza in Parlamento ancora sono la prima forza. Ma grazie al cazzo. Non c'è dubbio. E allora invece sì, il test dell'Emilia Romagna dice che sono un partito finito? E c'è tutto, non solo quello, dappertutto. Dappertutto, non beccano più un voto, ma neanche se si vota un condominio. Questo ti fa godere, questo ti fa godere come un pazzo. Mi fa godere che questi qui siano finiti, come dirò quando finiranno le sardine in padella. Non è che cacchio me ne fotte le sardine. Ma niente, ciao, cioè, non ti frega di niente. Ciao. Una cosa che ti interessa, una sola, una. Quella di darti dalla testa di cazzo. L'unica cosa ciao, che ti Vittorio. Interessa. Ciao, è vero. La Zanzara. Le nostre preghiere hanno fatto arrivare Fontana e Salvini, questa è la grazia, le preghiere. Yeah. Siamo passati da quelli che ben pensano a quelli che non pensano. Ragazzi, tiriamo fuori i rosari, forza! A Uma Uma Thurman, la donna forte che un po' ti turba. Tuo figlio in rete da quando è in culla come Truman. Vedo un obeso anche lui YouTube. E più si abbuffa, più gente esulta. L'era della musica sembra no, quel serena. Soffrire! Un cazzo di gara infinita, chi se la mena. L'ignoranza sventolata come bandiera. Il sonno della ragione vota Lega. Pronto? Buonasera. Salve Salvini, se lo contesti già sono usciti. Manda vaccino ai vaccini, terapia artisti, privi di senso, siccome i testi nell'indie. Buongiorno. Trappano bimbi, stai che su streaming, non trovo Lucio Battisti. Ci può far entrare cortesemente, Sì. Repocciamo come a Cincinnati, su via, siamo adulti e non vaccinati. Il senso nascosto così bene che non c'è. Non avrai altro brand al di fuori di me. Ci hanno detto che da lei parte una parte dello spaccio della droga qua in quartiere. No. L'hanno detto dei cittadini. Adesso cosa facciamo? Pensavo di trovarti qui. Sì. Sono sul fondo e scavo. Aspettando una mano, siamo morti. Amico mio! Ti senti presa all'amo? Sì. Mi sento anch'io così. Amico mio! Siamo quelli che sperano e sbagliano. Quelli che non pensano. Io sono leghista! Leghista dalla prima ora! Pagare con le mie tasse, con il mio sudore, il Cialis o il Viagra a un vecchio di merda pensionato che il Viagra se lo può comprare solo perché non gli tira più. Ma andate a fanculo, va. A Cruciani, sei un povero tirchio pezzente e pidocchioso. Dovevi dare qualcosa alla puttana. Ancora. Sicurezza, siamo tra i primi. Mamma mia, ragazzi. Vinto Prodi. C'è la ragione conto, Prodi, ha vinto Prodi. C'è la ragione, dice. È una regione in cui la sicurezza siamo tra i primi, c'è l'eccellenza del campo della sanità. Se potete chiamare i carabinieri, ci sarà qualcuno all'ascolto? Sì. No, non c'è nessuno all'ascolto comunque. La risposta è no, nessuno lo ascolta per fortuna. Quindi si domanda, ci sarà qualcuno all'ascolto? Allora, no, la risposta no. C'è molto un semplice. Vice sindaco di un paese, un leghista. Ma tu ti rendi conto, perché poi mi hai lasciato solo combattere con Feltri. Non gli hai neanche fatto fatto notare che è un'assurdità il fatto che nel suo giornale gli fottano i pezzi del cesso e pure le merendine. E hai lasciato solo me contrastarlo nel fargli notare che è una follia. Cioè, lui è il direttore del giornale, chiaro, non è il direttore del gabinetto, però il fatto che sotto gli occhi del direttore fottano le merendine, ma quello non è che fa la guardia giurata. Ma, voglio, ma mi hai lasciato, a te sembra normale, ma sì, a te sembra, ma domani il direttore del Corriere della Sera dice guardate qui rubano le merendine, un po' devo dire i pezzi del cesso, può essere stato rubano chiunque, cioè. Libero rubano pezzi del cesso e le merendine e poi il coglione sarei io. Ma forse c'è un problema, forse per noi è normale, ma certo. Spadalino, faccio i complimenti a Bonaccini. Senti Spadalino. Beh, finito. Senti Spadalino, finito. Complimenti al governatore Stefano Bonaccini che democraticamente ha vinto. Un suggerimento, quale? Signor governatore, si porti a casa un po' di falsi profughi. Che un po' di clandestini, qualche sacchetto a perdere così sparso per l'Emilia Romagna, visto che lei ha vinto. Ah, l'ha data la manata, la vita. L'Emilia Romagna è la seconda regione per accoglienza in Italia. senti questo. Ha vinto Stefano Bonaccini. Allora. Chapeau! Però cosa è costato? Cosa? Un'armata micidiale, quella rossa, tutti compatti, tutti uniti. Tutti compatti? Dove l'ha vista sta roba? Hanno raccolto anche i morti. Senti come batte. Dove l'ha vista il combatti? Questo un po' è vero, dai. Allora io vado a raccontare chiunque, ma giustamente, legittimamente, c'è una grande chiamata alle armi contro l'invasore tedesco. La grande Stalingrado. Questo è stato, dai, su. Comunque, Bonaccini ha fatto una campagna elettorale assolutamente sottotono a livello nazionale, tutto giocato in Emilia Romagna. Ma che c'entra? Chi per lui ha fatto l'altro lavoro, dai, allora. È un vice sindaco della Lega, ma legittimamente è la democrazia, vincere in Emilia è solo che è la democrazia, però quando vincono gli altri è il pericolo, quando vinci tu è la rassicurazione, scusami, la tenuta democratica, la regione avete citofonato Felix, a casa delle persone, non citofonato a casa di uno, avete citofonato a casa delle persone, io non ho citofonato a nessuno, Cruciani, non ho citofonato... avete costruito trasmissioni su trasmissioni, questo è un altro discorso, spiegandoci che c'era l'invasione, allora, la sostituzione etnica, avete scritto che c'era la sostituzione etnica. No, io non ho scritto un cazzo. E il tuo amico direttore avete scritto che gli immigrati portano le malattie provando a terrorizzare la popolazione. E intanto, mentre scriveva questo, gli fottevano il cesso dal giornale! E le merendine. Certo. Allora, un vice sindaco della Lega, non so di quale paese, scrive: di quale un'analisi, Lega. Un'analisi politica direi piuttosto dotta. Sì, sì. Vincere in Emilia è un po' come quando vuoi trombarti 20 ragazze nuove. E visto che non te la dà nessuna, ti accontenti dell'unica che ormai te la dà da anni. Però devo questo dire l'ha che detto chi non ha capito. Ha della genialità questa cosa. Chi l'ha fatta questa cosa? Uno della Lega, non so, uno della un Lega. Vice sindaco. Vabbè. Vincere in Emilia è un po' come quando vuoi trombarti 20 ragazze nuove. E visto che non te la dà nessuna, ti accontenti dell'unica che ormai te la dà da anni. Sessismo, maleducazione, follia, accuse, sempre sciocchezza, follia assoluta. È una follia battuta. Assoluta. Sì, e che sarà mai? Ma chi l'ha detto? Come si chiama? È un vice sindaco della Lega, un tale Giacomo Moscarola. Giacomo Moscarola. Luciana da Vicenza, avanti tutta, dai Giacomo. Sono qua Luciana da Vicenza. Dimmi Luciana, dimmi. Allora, ecco, stasera le Cruciani. Donne sono agguerrite stasera, sì, guarda. Anche tu sei incazzata nera, Luciana? Certo. Perché cosa sei incazzata nera? Dimmi. Allora, intanto voglio fare una premessa. Non sono d'accordo al 100% con quello che hai detto di Conte prima. Seconda cosa, Sandir, bisogna sempre andare all'attacco. Andare all'attacco, mai. Poi, oggi ho ammesso. Aspetta, Luciana, oggi ho ammesso la sconfitta come fanno tutti. Si ammette la sconfitta di fronte a Santuzzo. L'ho ammesso, ho fatto il come si chiama? Io non ho né vinto né perso. Voi avete fatto una campagna. Io quando si una concede per la vittoria, verità, per la verità. Lascia perdere. Io ho concesso la vittoria perché qui c'era una disfida a distanza. Ho concesso la vittoria. Volevo oggi la faccia di Santuzzo segnata, distrutta, in ritirata. E invece mi sono dovuto assorbire le solite cose, le solite analisi, le vittorie di Santuzzo, le sardine che esultano. ultra, abbiamo fatto il nostro dovere, eccetera, eccetera. Mi sono dovuto assorbire tutta questa retorica inutile, continua, da giorni, una retorica insopportabile sull'Emilia Romagna, baluardo di democrazia, che resiste al fascismo, eccetera. Ci siamo dovuti sopportare questa retorica ridicola, vergognosa, sì, stucchevole, stancante. Ma va bene, bisogna concedere l'onore della sconfitta. Bisogna dire, Santuzzo ha avuto ragione, anche se poi in realtà non sembra che sia andata così, ma comunque Santuzzo adesso ha avuto ragione, lo ammetto, ho perso di fronte a Santuzzo, ho perso questa battaglia naturalmente. Lui adesso va in ritirata e noi continuiamo qui ogni giorno a combattere, vai, su, dimmi. Esatto, Luciano, dimmi. Adesso li abbiamo smascherati, no, finalmente. Li abbiamo, calma, io non ho smascherato nessuno. Li abbiamo smascherati, avete che non chi? C'erano. Chi? Le sardine che sono state determinanti, Bonaccini non vinceva, vinceva Salvini. Questo non lo so, alcuni lo dicono, altri non lo dicono, bisognerebbe fare delle analisi approfondite, come direbbe Parenzo, che non facciamo, lui invece già l'ha fatta, dimmi. Bonaccini aveva scaricato il PD, tra l'altro, comunque per loro va bene tutto, no? Se li inventano. Io ho una mia teoria. Qual è la tua teoria? Un cervello antico del PD si è inventato questa cosa delle sardine ed è andata... come volevano loro. Che vuol dire loro, un cervello antico? Un cervello un grande burattinaio. Cioè, un burattinaio, un burattinaio. Un burattinaio, signor Mortadella vuole dire lei, no? Signor Mortadella. Mortadella, prosciutto, quello che vuoi. Allora, penso io che dico abbia una il tempo cosa da perdere a creare sardine, signor Prodi. Salvini deve fare la stessa cosa, cioè? Finché in tempo, perché sennò ci fottono anche le altre regioni. Deve, tu dici, Meloni, inventarsi una le sardine di destra, dici, no, ma non è roba, sai. No, le sardine di destra, no, che le cosa sardine dici? Le sardone di destra deve... tu dici creare un qualcosa della un società qualcosa civile, queste puttanate qua, no, che, ma per carità, queste puttanate che devono riempire le altre piazze. Ma guarda, se non fai così non si va da nessuna parte. Questi le pensano tutte pur di non andare ma a casa, sì. Pur di non andare a casa, pensano, pensano le pensano tutte, le pensano tutte, le pensano tutte. Luciana dice le pensano tutte, le pensano tutte. Le pensano tutte, e invece quell'altro citofono la casa della gente non le pensa tutte. Ma guarda Parenzo, tu sei non si può neanche ascoltare. Dica, cara signora, zitto, mi dica. A lei piace Cruciani, giusto? Beh, mi piace Cruciani, certo, è una persona simpatica, ironica, certo, che sa. Scusami, Luciana, se qualcuno, se scusi signora Luciana, facciamo una lista. A lei piace? No, scusi, a lei piace Cruciani, benissimo, d'accordo. Poi le piace Mario Giordano, ad esempio? Giordano, Mario Giordano, le piace? Insomma, è un po' logorroico, però mi piace. Però le piace, benissimo. Del Debbio, aspetta, facciamo la lista. Del Debbio, no, ottimo, legittimo. Del Debbio le piace. Ma sono dei giornalisti, come certo, Porro, ma ci mancherebbe. La verità, la legge, signora, facciamo un attimo un identikit. Tutti la verità. Giorni. Tutti i giorni. Ah, che bello. Quindi lei tutti i giorni legge la verità. Sono abbonata. Ecco. Ah, è abbonata alla verità, lei. Sono abbonata perché ti dà fastidio. Ah, ti dà fastidio. Ma dunque conosce il signor Borgonovo. Bellissimo, interessante. Cosa devo leggere? Quello che scrivi tu. No, no, la verità. Scrive, quindi legge anche la verità. La verità. Qual è devo il problema? Devo leggere quello che scrivi tu. Beh, le farebbe bene, sa. Le farebbe bene. Le mando una copia del mio libro, I falsari, cara. Ma guarda che prima di scrivere nei giornali bisogna imparare a scrivere. Sì, questo, guardi, è stato già fatto, però. Già hai fatto. Capito? Esame di Stato, ecco, già fatto, cara. Già ecco, fatto. Lei conosce... tu devi andare a scuola, hai capito? Già devi fatto, andare, cara, già fatto. Perché comunque non hai un minimo di cervello. Lei legge, invece c'era lei che giustamente vota Salvini e legge la verità. Giusto? No, per carità, nonnina cara. Lei legge la verità, quindi, tutti i giorni. Perché cara lo dice tua sorella. Tutta, ecco. Lei legge tutti i giorni la verità, quindi. Io leggo tutti i giorni due o tre giornali. Due, tre. La verità libero. Aspetta. La verità libero. Aspetti un attimo, libero. E aspetta, ci penso un secondo. Ah, il giornale, scusi, è vero. Sì. Vero. E poi leggo quindi, il Corriere. Il giornale, sì. E lo capisce quello che legge sul Corriere? Lo capisce anche, sì. Lo capisco perché loro scrivono chiaro, capisci? Il Corriere, certo, sono d'accordo con lei. Quale Corriere? Corriere della Sera? Legge il Corriere della Sera? Non credo. Scrivere le barzellette. Ma lei legge il Corriere della Sera? Ma perché la tratti come quindi lei ignorante? Legge la verità libero la e il giornale la stai no, trattando è un come una vecchia ignorante no, è un identikit. quello che dice una corrente e quello che dice l'altra. Giustamente legge la verità, libero il giornale per sapere dentro il centrodestra cosa pensa la corrente vicina alla Lega, quella vicina a Forza Italia e quella vicina alla Meloni. C'ha ragione, vorrei sapere allora del centrodestra. Ha ragione. Mi sono fatta una mia opinione. Secondo me, sì, a questo punto Salvini, pur lavorando come un matto, pur avendo persone valide e tutto, con tutti gli inciucci della sinistra non riesce. Allora bisogna imparare a fare gli inciucci anche noi. E che brava, un bel insegnamento, ecco, questo che ha. Fermi tutti. Ciao. La Zanzara. Ciao Rocco. Ciao ragazzi, se non altro fino alle prossime elezioni regionali gli emiliano romagnoli si sono levati dai coglioni quel paraculo di Salvini e le sue buffonate. Avanti tutta! Cruciani, sono un tassista di Milano, Parigi 1, hanno cercato di pagarmi con la tessera del reddito di cittadinanza da Milano fino a Bergamo. Naturalmente non ha preso questa tessera, il POS non l'ha presa, non l'ha accettata e io sono andato via e gliel'ho spezzata in 10 pezzi, state, gliel'ho buttata via dal finestrino. Ciao. Sono pronte per essere munte. Sono pronte per essere munte. Stanno qua. Ma mi fate risentire il ragazzino napoletano, per favore. Il ragazzino napoletano. Io la trovo una cosa incredibile. Cioè, abbiamo visto mille scene. Ma adesso, per carità. Cioè, no, non posso essere così buono, non posso essere così tollerante, buonista. Non è successo da nessun'altra parte, a meno che io non ne ho notizia. Da nessun'altra parte. Tu hai usato due appunto, parole non posso essere tollerante rotondo. Hai usato delle parole improprie. No, tollerante non può, ma nel senso sono che non posso essere improprie. Cioè, non posso riflettere su una cosa di questo tipo, non c'è nulla su cui riflettere. Non è successo in nessun'altra città, in nessun altro contesto sportivo. Cioè, questo ragazzino, sai quelle scene? Tu non lo sai, lo ripeto per l'ennesima volta. Ci sono delle scene, entrano le squadre in campo, i bambini, 11 bambini, 11 giocatori con la maglia dell'altra squadra. Ovviamente sono dei bambini di quella città, è ovvio, no? Dunque, bambini napoletani con la maglietta della Juventus. Uno di questi bambini, di fronte alle telecamere, che le telecamere inquadrano uno per uno tutti i giocatori e inquadrano anche i bambini. Naturalmente i bambini fanno un po' lottano tra di loro, fanno un po' a gara per andare lì, no? Sono scelti dal marketing della città che ospita la partita, in questo caso dal Napoli. Dunque sono napoletani e ovviamente spesso tifosi del Napoli. Questo bambino si come se volesse strappare il simbolo di quella squadra. Poi a un certo punto pizzicato fuori dallo stadio San Paolo. Tra l'altro si fanno pure intervistare, è una cosa incredibile. Senti cosa dice, senti. Ho fatto un gesto che per il Napoli è una cosa eccezionale. Mi sono coperto lo scuretto di chi la squadra è merda. Amico mio, amico mio. Vabbè, ma comunque vabbè. Ragazzi, molti attaccano Sgarbi, adesso leggo dei messaggi qui. Sgarbi è l'unico eletto di Forza Italia in Emilia Romagna. 1600 voti, è scattato il seggio a Bologna e Sgarbi è l'unico eletto in Emilia Romagna di Forza Italia, che ha un eletto in Emilia Romagna, Vittorio Sgarbi. Molto probabilmente non andrà a fare il consigliere regionale in Emilia Romagna, resterà in Parlamento, sarà sans dire. Però è l'unico eletto, è l'unico eletto. Mattia, provincia di Modena, vai. Buonasera a tutti, Parenzo e Cruciani. Buonasera, forza, vai. Buonasera, caro allora, Mattia. Volevo rispondere a quel ragazzo che è intervenuto un qualche minuto fa riguardo alla fornitura dei farmaci per l'erezione agli anziani vecchiaci in pensione che non ne hanno bisogno. Sì, lui era contrario al fatto della distribuzione gratuita, diciamo, di Viagra, Cialis e altri prodotti agli anziani. Io invece sono assolutamente a favore, dovrebbe essere fornito gratuitamente questo servizio. È inutile che ne parliamo perché esistono delle regole ben precise. Il farmaci per l'erezione non vengono forniti gratuitamente così a tutti, ma solo a alcuni pazienti ben specifici. I pazienti che hanno hanno avuto un intervento alla prostata per asportazione chirurgica per tumore e con una nota 75 del ministero, sì, possono aver gratuitamente. Amico mio, non è la trasmissione condotta mirabilmente dalla signora Nicoletta Carbone, questa qua. Non bisogna citare, certo, leggi. Citare leggi già mi dà fastidio. Perché? Allora, la citazione di leggi. È chiaro che ci sono alcuni casi in cui è prevista questa roba, ma a noi che cazzo ce ne frega adesso? Spiegami. A noi cosa ce ne frega? È un'informazione errata, che viene buttata infatti non è vero. Se tu, secondo me, a un certo punto, se uno ha bisogno di Viagra, dovrebbe essere lo Stato a fornire. Stato potrebbe fornire, spendiamo soldi incazzate, potremmo fornire, per la felicità delle persone, potremmo fornire a certe condizioni, potremmo fornire tranquillamente anche il Viagra. Ciao amico mio, ciao. Allora, ma secondo te sarà contento il padre della Borgonzoni, noto militante del Partito Democratico, o comunque noto tifoso di Bonaccini, di questo risultato della figlia? L'abbiamo già sentito prima delle elezioni. Io lo richiamerei. Sarà combattuto tra passione politica e comunque l'affetto che ha per... Non lo so, affetto, sai che c'è una disputa là, no? Una guerra. Una disputa, ma... Una guerra intrafamiliare. Ama sempre i propri figli. Sai che io su questo però posso dirti una cosa? Per me non è così, cioè non è scontato. Io conosco delle persone che non provano amore nei confronti dei propri genitori. Sì. Sono persone inumane. No, non è vero, perché la vita spesso porta delle divisioni. Ma non è possibile. No, nella vita. No, ma davvero porta delle divisioni anche di molto profonde. Persone che non si sono mai conosciute, sì, non è scontato, vabbè, non è cose scontato. Problematiche, però. Ma no, non diciamo, sono problematiche di natura, è quella che un padre ama incondizionatamente i propri figli. Non è così. Sì, la natura è questa, le proprie scelte, la natura è questa, però non è scontato. Ci sono delle situazioni in cui le vite si separano, in cui i destini si separano, in cui le persone non si frequentano e soprattutto delle persone si sentono come degli estranei. Una tragedia. Degli estranei. Ti racconterò qualcosa che mi riguarda personalmente, non stasera. Comunque, sentiamo il padre della Bonaccini. Della Borgonzoni. Sì, pronto. Architetto. Chi è? Sono Cruciani, come andiamo, compa Renzo? Ah, come andiamo? Mi sembra felicissimo. Voi insidiate il padre snaturato, lo insidiate qui mentre tranquillo. No, che insidiamo, non sia mai, assolutamente. Rimango sorpreso dal fatto, caro architetto, che lei non sia dispiaciuto nemmeno un po', anzi il contrario mi sembra, per questo esito. Ma il termine dispiacere può anche essere un fatto, un elemento di riservatezza non appartiene all'ambito pubblico. Politico, qui stiamo parlando di una sfera pubblica nella quale si presentava e si è presentata mia figlia e ha fatto tutto il possibile, nonostante i guai che ha fatto il suo datore di lavoro. Per cui praticamente secondo lei senza i guai del datore di lavoro c'era qualche speranza in più? Ma probabilmente meno machismo salviniano vero. Sarebbe servito, perché non si va a suonare i campanelli, non si permette a un vice sindaco di Ferrara di praticamente esibirsi nel peggio del peggio. Ossia, queste cose non si porta praticamente sul palco di Bibiano la madre del piccolo, si chiamava quel piccolo, quel bambino? Sì, Tommy. Di Tommy, che poi è una vicenda che proprio non è comparabile, non c'entra nulla. Sì, sì, è vero. Lucia ha fatto i miracoli con un datore di lavoro che disfava quel poco che faceva. Però scusi, io non vorrei contraddirla, però c'è un elemento. Lei sta dipingendo sua figlia come una persona, una specie di burattino che prende. No, che prende... No, non questo. Come una che fa delle cose che non vuole fare, come una che viene manovrata. Non è il suo stile. Ma che Salvini vuol dire? Dai, la Lega ha preso quei voti, il 30% in Emilia Romagna perché c'è Salvini, non è che l'ha presi perché c'è la Borgonzoni. Dai, io quello che voglio dire è una cosa molto chiara. Quello che mi ha mosso e che mi ha indignato è praticamente questo sovranismo che diciamo, il sovranismo non è nient'altro poi che il nazionalismo. Il nazionalismo ha suscitato due guerre mondiali in Europa e non solo in Europa, allora, capito, con questa... quasi 90 milioni di morti. Ma questa è roba vecchia però, amico mio. Però no, è roba gli vecchia. Effetti del nazionalismo. Scusa, il rinascente razzismo che noi troviamo a piè spinto in qualche modo trova i suoi riferimenti. Cioè, mi sta dicendo che Salvini è un novello Mussolini, un novello Hitler. No, dare del fascista praticamente a Salvini sarebbe troppo, sarebbe onorarlo. In qualche modo ci sono larvati pericoli, ma scusa, se tu ascolti Salvini, certi suoi riferimenti sono addirittura... è uno slang imitativo del ventennio, ogni tanto ci casca. Torniamo all'1:30 di questa notte. Tu che cosa hai provato in quel momento? Un po' di dispiacere per tua figlia, non l'hai provato? Cioè, un pensiero per tua figlia? No, la prima cosa è la... Certo, anche un pensiero, certo, perché lei ha combattuto, ma non poteva che perdere. Adesso sarebbe il caso di fare una telefonata a Lucia o no? Non ho il numero di telefono, se tu me lo dai, ti do una telefonata. Daglielo tu, Davide, dai, dagli il numero di telefono. Ma scusi, io glielo do volentieri, però figuriamoci, però mi metto un po' in imbarazzo. Dagli il numero. Io glielo do, però poi non voglio entrare in una crea di famiglia, sua figlia ogni tanto la vedo, la intervisto, mi è molto simpatica. Ecco, invertiamo l'onere della prova. Io praticamente sto per mandare a lei dei complimenti e li manderò all'unico indirizzo possibile, perché quando la mia bimba fa il birignao, perché non mi telefoni? Hai capito? Quando fa il birignao, perché non mi telefoni? Lei ha modificato il numero di telefono e io questi non li ho. Molto volentieri li telefonerò. Come ha modificato? Se tu vuoi, come mi ha dai modificato? Il telefono, ha cambiato? Ma lei non conosce nessuno che le qualcuno che le può dare il numero? No, dagli il numero, dai. No, dagli io glielo posso, io figuriamoci, però è un po' strano che il padre non abbia il numero. No, non conosco. Senti, e poi voglio dire una cosa. Te lo do, io glielo do, figuriamoci. Non si pone in questi termini. Si pone in termini molto diversi. Se lei ha piacere che io abbia il suo numero. Sì, avrà piacere che uno manda un messaggio. Dai questo numero, dai Davide. Bene. Allora, se voi mi mandi un messaggio, io una telefonata. Ma mi mettete in difficoltà con l'onorevole Borgonzoni, scusami. Ma dai un numero, che ti frega? Ma è un numero, io non stai lo dando so il numero al padre, dai su, ma qual è il problema? Dai su, casomai rispangi... No. Scusa una cosa, ma sai che mi piace l'idea che vi sto facendo litigare? Sì, ma... No, mi sto facendo litigare, perché ma sa perché? Perché Cruciani non ha alcuna discrezione. Mettetevi anche nei miei panni. Mi mettete in mezzo in una querela familiare in cui il padre non ha chiedete. Dai, tu forza, sei, dai, tira fuori sto numero. Dai. Ma non so se posso. Io ce l'ho qua. Prima di passarmi. Comunque glielo do. 3. Formalmente non voglio darlo tutto. L'ultimo numero li deve provare tutti. C'è pronto, Luci, pronto. No, giustamente lui dice. No, l'ultimo lo dovete provare, dai, l'ultimo. Davide, non è possibile. Ma, conta, ma io scusa. Va bene, 5, dai, 5. L'ultimo numero è 5. Io... Ciao. Sì. Ciao. Saluti. Ormai sai usare la fatturazione elettronica. Crei, invii e ricevi fatture ogni giorno. Ma ti sei accorto di spendere troppo. Passa alla fatturazione elettronica di Aruba. Puoi importare da altri sistemi i tuoi clienti, i prodotti, i servizi e le fatture in una soluzione completa e conveniente. Chi l'ha scelta non la lascia più. Risparmia con la fatturazione elettronica di Aruba. Su aruba.it. In cima a una montagna innevata o in attesa della prossima onda. Ovunque ti portino le tue passioni, seguile a bordo di BMW X3. Il SUV disponibile in versione benzina, diesel o plug-in hybrid è pronto a farti vivere le tue passioni con un bonus di 5.000 euro se permuti la tua auto. Offerta valida fino al 15 febbraio su vetture disponibili a stock. Dettagli su bmw.it e in tutte le concessionarie BMW aderenti. Sabato 8 e domenica 9. Oggi parlano tutti di Industry 4.0, ma il tuo software gestionale parla con gli impianti di produzione. L'ERP di Centro Software, oltre a parlare tutte le lingue del mondo, dialoga anche con le macchine. Inoltre consente di gestire tutti i processi di pianificazione, MES, logistica, supply chain, controlli qualità, CRM, finanze e amministrazione. Scopri l'ERP più completo già pronto per Industry 4.0 su centrosoftware.com. Centro Software, il miglior ERP per le imprese italiane. La Zanzara. mia Parenzo, quando litighi con Meluzzi mi fai venire voglia di tornare etero. Ragazzi, comunque concordo con un ragazzo 23enne, tra l'altro mio coetaneo, che la Martani mattizza 100.000 volte di più di quell'influencer. Là sono andato a vedere il profilo dell'influencer, guardate, è la stessa cosa del 90% delle ragazze che ci sono su Instagram della sua età, ma la Martani, vegana che è, quella figa pazzesca, cioè io voglio farle assaggiare il prosciutto, ragazzi. Croce Alenzo, comunque ragazzi, la realtà è che siamo in un'epoca buia, un'epoca folle, e trombare, mi venivano in mente queste parole e leggendo quello che ha scritto quel vice sindaco che non conosco, quel vice sindaco della Lega, con la metafora della trombata delle elezioni in Emilia Romagna, eccetera. Siamo in un'epoca in cui non si può utilizzare la parola trombare, perché poi si parla apertamente di sessismo. E bella figa viene bollata come un'offesa. Qualsiasi metafora che abbia a che fare con l'atto sessuale, della penetrazione nei confronti di una donna, viene praticamente tacciato di sessismo, di un'anticipazione di una violenza nei confronti della donna. È un'epoca folle. È così. Assolutamente. Si alzano le vestali del politicamente corretto, del fatto che non si può parlare apertamente. Confondendo cose. Qui non ci avrete mai. No, ma non si possono utilizzare certe parole che cominciano a romperti i coglioni, capito? Ma non ci avrete mai da questo punto di vista. Mai. Questa rottura di coglioni continua, sessismo, quando uno parla sessismo. Ma sessismo di che cosa? Fai una metafora. Quel signore che poi si è scusato, purtroppo, perché poi la gente è debole. Capiscono le gaffe. Capiscono le gaffe, per fortuna. C'è ancora un po' di senso delle cose. Dai, Andrea da Milano, dai, su. Niente, un attimo che tolgo lì la voce. Togli sto lì la voce. Qua. Dimmi, ciao, dimmi. Giuseppe, eccomi. Dimmi. Niente, io chiamavo per sottolineare come per la seconda volta in pochi mesi, come tu già avevi scusami Andrea. Allora, voi vi rendete conto? È veramente un piccolo esempio, vi fa capire in quale epoca buia, tetra siamo capitati. Vincere in Emilia è un po' come quando vuoi trombarti 20 ragazze nuove e visto che non te la dà nessuna, ti accontenti dell'unica che ormai te la dà da anni, che sarebbe l'Emilia Romagna. È una stupidaggine. No, ma sarà una stupidaggine un politicamente. Politico poi, è ma ancora quale... peggio. No, ma spiegami, può essere una stupidaggine, ancora certo. Peggio. Ma è chiaramente una semplificazione, perché una semplificazione è un'altra cosa, è imbarazzante. Dov'è il sessismo? È una metafora imbarazzante per chi la fa, non c'entra il politicamente. Cosa c'entra? Il politicamente corretto, ma se corretto, ne dicono di tutti scorretto. Colori, ma è imbarazzante. No? Ma dov'è l'imbarazzante? Se io spiegami. Fossi una dirigente, un elettore del centrodestra, mi cosa? Sentirei in imbarazzo ad ma avere un mezzo leader politico che parla in questo modo. È un vice sindaco di un piccolo paese. Giustamente la Meloni, secondo me, se lo sapessi, non è del suo partito, no, ovviamente, della Lega, perché è della Lega, non c'entra, ma secondo me la Meloni, che è una persona seria su questi temi, sì. L'uso di queste metafore non le piace Milano, neanche a lei. Ha ha ragione. Mamma mia, apriamo le gabbie. Forza, signor perbenista, posso? Dai, apriamo le gabbie degli animali, prego. Forza, ma stai zitto, vai a studiare. Dai, vai. La gabbia è aperta, vieni, dai, vieni, dai, vieni in mezzo al circo. Su, vieni in mezzo al circo. Forza, è troppo scemo, è troppo cretino. Dimmi, forza, dimmi. Comunque, piacere, Parenzo, semplicemente, dai. Volevo semplicemente evidenziare rapido, come la seconda volta in pochi mesi Salvini in realtà si è dimostrato, secondo me, un coglione politico. Perché, premesso che il gap è talmente ampio che in realtà probabilmente le elezioni l'avrebbero perse comunque, però quella storia lì del citofono, secondo me, non lo so, è decisiva. Non lo possiamo sapere, amico mio. Andrea, amico mio, non lo possiamo sapere. Ti posso dire? Però ti dico una cosa. Non si può sapere. Come fai a immaginare se è cambiato qualcosa negli ultimi giorni dopo la vicenda del citofono? Non si può sapere. Io sono tutto quello che c'è contro di estremismo di sinistra, veganesimo, ambiente, tutte queste cose. Non è che veganesimo sia di sinistra. Comunque, vabbè, allora. Su 5 sono d'accordo con te. Allora? Beh, però questa storia qua di Salvini, ma c'è del citofono proprio l'ha ma fatta secondo me dal posso dirti, posso dirti secondo me non ha contato un cazzo, cioè ma chi voleva niente. Doveva votare Salvini anzi ha rafforzato le sue idee, chi invece cioè, non lo voleva votare non l'ha votato, forse cioè, ha convinto qualcuno ad andare a votare, può darsi però non possiamo sapere. Io poi non ci credo a queste cose, non ci credo a queste cose, i flussi dei voti, gli studi su queste cose qui, credo semplicemente che molti flussi, elettori studi, sì alcune cose tutti, sì tutta molti gente elettori, che lavora per anni e anni, lui non crede ai flussi, no, arriva lui non credo ad una cosa, credo come hanno già scritto che molti elettori dei 5 Stelle questo sia, è chiaro ex elettori dei 5 Sicuro. Stelle siano andati a votare per Bonaccini, molto semplice. Ma dopo la mia analisi il cretino è d'accordo con me? Sì, ma può darsi. Non so con chi stavo parlando. Ciao Andrea, ciao. Andiamo a Napoli però ragazzi, andiamo a Napoli dove la signora Rita pare che abbia vinto il campionato del mondo. La signora Rita, ve la ricordate la signora Rita? Sì, eccezionale. La signora Rita, senti se capisci qualcosa, l'esultanza tutti italiani della signora, Rita, voglia a te, la signora, l'esultanza della signora Rita alla vittoria del Napoli. Scusate, ma hai guardato Napoli Juventus? No! Perché in Azzivizia che hai guardato, sai qua? A Uguai non lo ha Azzivizia perché non lo ha capirato. Hai guardato solo una, hai guardato. Ma non sei Uguai. A forza volevi segnare. Ma ho finito di segnare, non levo. A me è merda. Uguai. A forza. Ehi, cambiami il culo. Ma te fai un panelli. Un erudato qua. Guardate. Ehi, a te punti. Ehi, guardi. Finite il panelli. E non stai in. Scusate l'entusiasmo delle mie zie, ma noi in Napoli ce l'abbiamo nel sangue. A me metto, a me facci, sia l'utambra, e tutte le napolità, viene a Napoli, viene a Roma, vieni che sta succedendo, carna, faccio la piatta a Torino, su no! Per noi abbiamo cambiato lo scudetto, vattene andare, guarda, abbiamo cambiato lo scudetto, a faccia di tutte le orine. Uguai, a niente tuo culo! Però sì, tu vai, non è un cane, è una brava! O me spacci! Guaggia! Guaggia, no! Omme spacim! A me questa espressione, mi fa morire. Omme spacim! Poi è vera, questa signora Rita. Questa signora Rita è tutto vero. Tutto vero. Pronto? Pronto? Rita? E chi è? Sono Cruciani, Omme Sfacim. Che significa Omme Sfacim, Ri? Ma chi è? Mari, che vuol dire Omme Sfacim? Spiegameli in italiano, Omme Sfacim, che vuol dire? Omme Sfacim, che un uomo di merda, non vale niente. E perché? Ma l'hai vista la partita ieri sera? Hai detto Omme Sfacim a chi? A Higuain? A te, ma io che cazzo c'entro con Higuain, scusa? Perché tu sei juventino? Ma non sono juventino, sono della Lazio, non sono juventino. No, tu sei juventino. Comunque ora la Lazio, juventino, ha buscato tutte e due. Ma no, capito, ma, per... ma che cazzo te ne frega a te di Higuain, ancora che stai a 20 punti di distanza? Che cosa te ne frega di Higuain a te? Perché devi insultarlo così, signor Higuain? Signor Higuain? Signor Higuain? Uguain e Sarli stanno squadra, stanno a fare un capo, te giudio. Ma, scusami, come lo giudichi il signor Sarri? Signor Sarri, ecco, un giudizio della signora Rita su Sarri, come lo giudichi? E te l'ho detto già, te l'ho detto prima, è un uomo di merda, che è un uomo che non vale niente. Ma perché? Questo significa, tu sapevi come faccio, che significa? E te l'ha scritto. Anche Sarri allora, Omme Sfacim. Anche... pure tu comprese. Ma io che cazzo c'entro, Rita? È perché tu sei juventino. Ancora. Ma come sei un uomo mica, mi chiama Rita. Scusa, io non ho capito. Ma che cosa fate con quelle zie? Ma con chi la vedete quella partita? Tutte donne con la sciarpa in testa, tutte sedute lì a urlare. Ma che roba è? Ma che ambiente è? È Cruciani, signora, questo qui. Avevo vedere che c'è Remigio. Ma chi? È Remigio. Remigio, che c'è Remigio? Chi è Remigio? Ma chi c'è? Bloccata. Ma chi c'è? Tuo marito? Chi c'è là? Oh, Rita! Omme Sfacim! Mamma mia, ragazzi! Questa è Napoli! Però, gli ultimi 5 minuti di questa disgraziata trasmissione io le dedicherei ad una signora che fa una pratica, specializzata in una pratica, aiuto, caro Parenzo, aiuto, che aiuto. Oggi però ha una sua, un suo aggancio con l'attualità. Ha 28 anni questa signorina, si chiama Lady Demonique, questo è il suo soprannome, Lady Demonique. Il cognome non promette nulla di buono. Ha 28 anni e chiaramente fa la mistress. Fa la mistress. Mm. Oggi, secondo te, chi è che dovrebbe farsi torturare i coglioni? Ecco, questo è politicamente. Secondo te, chi è che si dovrebbe. Avrei una lista lunghissima di persone, cioè, da sottoporre. Chi è che si dovrebbe questa, far torturare? Perché Lady Demonique è specializzata nella tortura dei genitali. Ah, Lady? Io mi sento già male. Buonasera, ciao ragazzi. Buonasera, i suoi clienti, signora, di solito per quali partiti votano? Per quali partiti politici votano? Che Parenzo vuole sapere, no, questa cosa. Lo chiedo dopo, voglio prima, allora, capire qual è la pratica. Ti voglio rivelare che ci sono dei fascistoidi che vengono da me a farsi torturare. Beh, questo fa godere, tutto, fa godere Parenzo, fa godere Parenzo. Questa cosa qua è, cioè, infatti lo sapevo. Qui questo cambia il quadro, cosa, cara. Che mi diverte, mi qui diverte cambia il quadro. Allora entriamo, perché, guardi, per la prima volta proprio gioia, sì, perché io poi sono emiliana. No, ma entriamo un attimo nello specifico. Entriamo per capire. Allora, in che cosa, questa volta intervista vorrei provare a condurla in parte io. In che cosa consiste, cara signora Lady Demonique, la pratica? Cioè arriva uno dei suoi clienti, lasciamo stare dopo che è sovranista, che vota Lega, che è di Forza Nuova, anzi diciamo che è un cliente di Forza Nuova, bellissimo, arriva nel suo atelier fascistoide, ecco, e che cosa accade? Mi dica. Allora, accade che inizialmente non gli dico nulla, nulla, però una volta che è legato, sì, io lo torturo per bene, perché proprio non me, no, cioè, i fascisti non meritano. No, no, ma nulla. Che cosa gli fa? No, ma queste persone diciamo che vengono spontaneamente però da lei, giusto? Beh, certo, sì, assolutamente. Sì, sì, ci sono persone che pagano per farsi fare questa pratica, giusto? Esatto, esatto. No, no, lo specifico che non vorrei. Bene. Pagano tantissimo, sgarzano. E che cosa accade? Quindi allora, lei li lega le mani, sì, lega le mani? Lego le mani, i piedi, li metto sul mio lettino, tipo quello dell'estetista, della massaggiatrice, solo che gli ho fatto delle modifiche, ci ho messo dei ganci per, sì, legarli, sì, per immobilizzarli. Sì. Una volta immobilizzati, sì, sì, lego le palline. Sì. Oh mamma. Apro gli aghi, quelli proprio da infermiera, perché sono anche infermiera, che oltre ad essere mistress. Che dolore. Apro le mie belle confezioni di aghi e comincio ad infilzare le palline. Ma metti anche, ma è vero che metti anche delle sonde dentro? Sì, sì, metto delle sonde uretrali, ma proprio dentro l'uretra infilo queste sonde che vibrano, proprio come il classico. Ecco, ci spieghi chi è il suo cliente tipico? Ecco, no, la cosa che è il cliente tipico che viene? Cioè, tu stai dicendo tipico, che sai, vieni ad apprendere a un certo punto che tra i tuoi clienti ci sono dei fascistoidi. Sì, sì, sì, sì. Capito Parenzo, la goduria di questa qua, che magari no, è pure perché, di sì. A me sembra un lavoro nobilissimo quello che fa. Allora, la perché signora, magari non è che me lo dicono la prima volta che ci, certo, vediamo, magari, certo, conoscendosi, chiacchierando così del più e del meno mentre gli torturo. Certo. Salta fuori che sono fascistoidi, allora lì la mia vena sadica esce ancora di più. Allora dobbiamo dire una però, cosa, lasciando questo, sì, i clienti che genere di lavoro fanno? Fanno gli imprenditori, perché comunque sia certe cose bisogna potersele permettere. Non c'è dubbio. Allora, Lady Demonique, costa una seduta Lady Demonique di ha iniziato nel 2014 a fare dei video come cam girl, poi è specializzata in una cosa che si chiama medical clinical. Sì, sì, sì. Cioè, sì, praticamente, c'è praticamente. Perché di medical non ha nulla in realtà, non è un medical, è il contrario. No. Scusa, ma lei ride, ma è un provoca al dolore in realtà, non è un medico. Scusa, scusami, Lady. Io provoco Lady dolore, io non devo curare, certo, nessuno. Certo, deve provocare dolore. Senti, Lady, voglio sapere una cosa, ma il cliente più assiduo che hai, quello che viene più spesso da te, per quante ore viene a farsi torturare? Questo qua praticamente prende su dal centro Italia, non sto a dire esattamente dove, sì, prende su dal centro Italia il sabato, io faccio l'eccezione solo per lui il sabato, sì, sì, perché io lavoro, faccio orari d'ufficio. Sì. E faccio l'eccezione per lui perché viene da me verso il mezzogiorno / luna e si fa 8 ore di torture, ma questo qua si fa fare di tutto, cioè tipo da una cosa. Allora, dalle cose basic come le frustate, i calci, sì, nelle palle, e poi basic, arriviamo al clinical, quindi alle sonde uretrali, agli aghi. Quanto paga per 8 ore di tortura? Sgarzano. alcanzo tra i 1000 e i 1200, dipende dal regalo che porta. E tu almeno non mi porta niente, mi sgancia 1200. Cioè, il regalo che sarebbe? Un regalino? Un qualcosa? Ma tipo un paio di scarpe, piuttosto che qualche attrezzo che posso usare. Ma scusa, a 28 anni tu fai ancora l'università? Hai lasciato? Hai studio oppure no? Allora, io avevo lasciato quando avevo 18 anni, 19 anni avevo lasciato. Che avevo iniziato a fare giurisprudenza. Sì, sì. Ho lasciato, sì. L'avevo ischiato un po', mi sono messa a fare la mister e poi recentemente ho ripreso l'università, adesso comunque sono al terzo anno. Non è che ci vai vestita da mistress all'università? Ma praticamente sì, cioè, poi l'abbigliamento da mistress, ascolta, non è che vado fuori con le tette di fuori, ecco. No, vabbè, questo però, no, cioè. Senti, ma i tuoi clienti riescono a venire, sì. Riescono a provare, cioè a eiaculare, a provare godimento oppure no? Cioè, no, ma è allora, italiani. Sì, io glielo concedo e glielo posso concedere solo in due modalità: o tramite l'utilizzo dell'elettrostimolatore sulle palle e elettrostimolatore membro, oppure? Altrimenti a manovella, cioè proprio ti schizzi. Cioè penetrazione no, mai. No, io non trombo assolutamente. Assolutamente. I tuoi genitori sono d'accordo con quello che fai? Lo sanno. Ma mia madre lo sa. E tuo padre? Ma mio padre sa vagamente che fa che produco contenuti sul web, ecco. Contenuti sul web. Italiani! Italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Io avevo già dato pure lì, non volevo dire, manca niente, perché mi ha chiesto come si fa.